Eccomi. Ma chi siete voi? Dove siamo? Eccomi. Ma dove siamo? Io non conosco questo posto. Io non conosco uomo. Sono un ospite, io sono un ospite. Sono in radio. Nel frattempo le persone nella chat continuano a diminuire e questo mi rende ancora più triste. Ma questa è tutta una scusa perché i politicazzi prenderanno il posto degli spacciaselli. Cattivi, Tommaso torna, sono in minoranza. Oh, è vero, torna subito. È solo una scusa, una... Cioè, hanno fatto malevola questa puntata scusa per prendere il posto nostro nel palinsesto, perché alle 8 di mattina chiaramente non li segue nessuno. Bravo. Esatto. 14 bravo. Persone nella stanza. Nella stanza. Dove entrano 14 persone qua? Il programma finirà con una persona nella stanza e tutto tornerà alla normalità. Infatti. Io credo di sì. Ne resterà soltanto uno. Ora bisognerà vedere chi sarà l'ultima persona. Ne resterà. Considerando che uno dei tre conduttori andrà via prima alla fine del programma. Non sarà nemmeno lui l'ultimo. Allora, parliamo di cose serie. Cioè? Intanto e allora andiamo di sì, parliamo di serie. Che devi dire, 10 minuti fa. Ma magari non erano attaccati. Ah, però. Ciao. Ciao. Amici. Ciao. Noi siamo gli spacciaserie. No, allora, noi siamo gli spacciaserie, i politi serie insieme agli politicazzi. E quindi siamo i politi serie o gli spacciacazzi. È più bello gli spacciacazzi. È più bello. Lo sapevo che avreste provato soltanto la seconda versione. Dunque, stasera puntata trash, sì, diciamolo. Perché ci siete voi già spazzatura così garbage proprio a manetta. Quindi noi siamo un po' come i ciao belli, capito? Di sì, di radicicletta. Soprattutto di bellissimi. Belli, siamo tutti bellissimi. No, noi i politicazzi. Giusto. È il programma tipo ciao. Ora piagno. Io comunque da oggi divento ufficialmente il parassita di Radio Bicicletta, perché la mattina non preparo playlist e nemmeno ora alle 8 per monoserie, proprio sono proprio. Sì, lui arriva già mangiato, viene per il suo programma e noi gli facciamo la playlist. Esatto, capito? È fantastico. Funziona così: dice il martedì sera e Mario che fa? Niente, fa la playlist per il giorno dopo. Esatto, più o meno va così. Esatto. Però devo essere sincero: non si lamenta mai. Cioè, ci mancava pure. Cioè, pur si lamenta pure. No, dopo che tu gli fai tutto il servizietto. Un giorno dico, vabbè, magari si lamenterà della musica che mando. Invece, no. È sempre più o meno. Non sporca, no, vabbè. È un cane pulito. È un cane pulito. Non sporco, non stresso, non stingo. Questo è Calzedonia, questo è Pompea. Pompea. Allora, basta parlare di Pompea. Sì. Di cosa parleremo? Di spacciacazzi. No. Ah no, scusa, noi siamo gli spacciacazzi e parleremo di... Di trash, l'ho detto prima. Dillo sì, tu, tu è il conduttore. Ma il conduttore sei tu, che devo presentare io la puntata. Fatelo dire a Tommaso, che poveretto sta parlando. Tommy, dillo tu. Beh, questa sera parleremo del trash italiano. Grande, Tommy. Oh, vedi come lo dice lui da Marsiglia. Professionale, come professionale. Grande trash italiano. Rap professionistico potrebbe fare Tommaso. E quindi, di cosa parleremo? Fammi un esempio, di che serie parliamo oggi? Turbo! Io non lo conosco, io Turbo. Bellissimo, Paccio non ha visto niente, non ha preparato nulla. Ha letto una cosa del Turbo. Che cos'è Turbo? Ora gli facciamo le domande. È facile, Turbo, un'altra... Ve lo dico. Il Vigile. Il vigile urbano con Lino Bam. Grande Lino Bam, che è un mito, ragazzi. I ragazzi della terza C. Commesse. Amico mio. Amico mio. Amico mio, Charlie un Bravo. Un inviato molto speciale. Che non nonno felice. Felice. Io già rido. Sarà una puntata difficile. Ragazzi, io partirei con una sigla delle nostre. Delle che abbiamo trovato ieri sera nel briefing. Sì, perché ieri abbiamo fatto un briefing. Cosa? Briefing. Sì, respiravamo, in effetti, non eravamo come morti. Cantavano i Police, briefing. Questi sono i pazzi con la prima sigla del Medico in Famiglia. Che è durata per 5 stagioni. Quindi. Los Locos con Ai Ai Ai Ai. Che canzonona, ragazzi. Ai. Scusate, lezioni da DJ, devo premere. Doppio click oppure fai play. No, me la vedo io col programma, dice sempre Mario. Poi... Ma perché voglio imparare? Eccolo. scusateci. Ci siamo, eh. Stasera abbiamo bevuto, ragazzi, veramente. Nessuno. Allora, i Lost Locos non ci piacevano. No, abbiamo... ci piacevano, ci abbiamo pure cantato. Abbiamo deciso di mettere la sigla del maresciallo Rom. Ma ci piacevano. Ma metti Tommaso almeno a parlare, poveretto. Aspetta. Giusto, Tommaso. Scusateci per questo inconveniente. Abbiamo chiesto a Piero di spostare un pezzo ed è partito. Sì, io ho il click del file. Ma l'avete riconosciuta? Eh? L'avete riconosciuta? Questa è la sigla del maresciallo Rocca. A questo punto parliamo del maresciallo Rocca. Quindi parliamo. Prego, vai. Cominciate voi. Allora, il maresciallo Rocca è un telefilm italiano. Marco, intanto si porta via i fogli. Maledetto. Il telefilm con Gigi Proietti. Con. Che c'era faccione anche... c'ha Gigi Proietta. Come si chiamava la moglie di Gigi Proietta? C'era prima Stefania Proietta. Gigia. Geggia. Allora, no. Serietà. Serietà. Oh. Allora me ne vado. Ci vediamo settimana prossima. Perché ho trovato il foglio col Marcello Rock. Ok. Foglio. Oh, cioè, fate sentire il foglio. Allora, il Marcello Rock è una serie televisiva italiana prodotta dalla Rai e da Solaris Cinematografica. Wow. Di Adriano e Guglielmo Arie. Arie. Che sarebbe tipo Ariel, quello del... No, sì, no, tipo Ario. Esatto. Anche. Insomma, c'era Gigi Proietti, c'era Stefania Sandrelli che poi viene accoppata. Dobbiamo dire altro, cioè, c'era Gigi Proietti. Cioè. Io mi domando perché un attore come Gigi Proietti dovrebbe fare una serie TV simile. Beh, è veramente oscena. Beh, dai, Maresciallo Rock non era male, era anche molto seguito. Sì? Dite? Sì, sì, sì, sì. Tanto le persone nella chat diminuiscono, sì, il Maresciallo Rocca. Ne abbiamo persa una. La trama è sempre la stessa. Ogni settimana il Maresciallo Rocca si trovava un morto in casa, più o meno. Tipo la Fletcher. Era il signore in giallo. Esatto. Moriva questo tipo. E lui con i quattro carabinieri. Uno era il Maresciallo Gargiulo, tipo. Come si chiamava? C'era scritto. Sì, c'era quello famoso, attore famoso. Se sentite, ma. Tommaso c'è ancora. Non lo so. Il brigadiere Cacciapuoti. Sergio Fiorentini. Cacciapuoti, esatto. Sergio Cacciapuoti, Fiorentini. Che era il fedele amico di? Del maresciallo Rocca. Il fedele amico dell'uomo. Sì, era anche il suo confidente, diciamo, nella vita amici, privata. No, erano amici. Fedele amico, che devo dire più. Che non è un cane, cioè. No, vabbè. E non abbaia. Poi parleremo anche di cani. Tra l'altro aveva anche il cane il maresciallo Rocca, se non sbaglio. Sì, che era simile a quello di Turbo. Birillo, Birillo. Me lo ricordo perché un mio compagno lo chiamavano Birillo. E me lo ricordo per via del cane del maresciallo Rocca. I ricordi dell'uomo, a cosa si spingono, a cosa si legano. Vedete come sono importante in questa puntata, fondamentale. Sì, sono d'accordo. Meno male che c'è Paglio. Con Tommaso è vivo. Secondo me no, Tommy, è morto. Tommy. C'è. Dove si era segnato? No. Penso. Secondo me. Troppo, dai. Secondo me l'antesignano. Aspetta, io sì, ora. Allora, l'antesignano del maresciallo Rocca. Però, chi è? Qual è? Chiaramente è Lino Banfi col vigile urbano. No, pensavo il brigadiere Rocca. No, quello è quello puntato. La puntata. L'ha puntato allora. Quindi infatti, io manderei la famosissima sigla. Mandiamo la puntata 5 della serie 2. Ok, che battutoni stasera. Non so se la riprendiamo. No, però aspetta, parliamo di un attimino del maresciallo Rocca. Prego, mi picchiano, aiuto. Allora, il maresciallo Rocca. Che vuoi dire? Ma in onda dal 96 al 2005, quindi 10 anni di grande televisione. Beh, vabbè, però sono solamente. C'è stata una pausa. 96-2008, perché dici? Perché poi c'è stata la miniserie conclusiva. Che sentite il titolo? Come si chiama? Il maresciallo Rocca è l'amico di infanzia. Ah, era un bel flash. Dopo le 5 stagioni è stata realizzata una miniserie con questo titolo, appunto. Mm-hmm. Con Gigi Proietti e Giancarlo Giannini. Ah, però. Una miniserie è stata trasmessa su Rai 1 nel 2008, appunto. Wow. Ecco perché quel inghippo nel ok. Sui fogli di Wikipedia. Abbiamo perso i fogli di Maresciallo Rocca. E basta Maresciallo Rocca. Ora parliamo del vigile urbano. Ora parliamo del vigile urbano. Ho fatto tutto sto lancio così perfetto. Adesso c'è la bellissima sigla che dobbiamo soltanto ritrovare. Allora, io lascio fare a te perché so che sai usare il programma. Sì, a voglia. Bellissimo, guarda. Io l'ho già vista, era più su. Eccola qui. Ok. Allora, intanto annunciamo. Allora, Lino Banfi. Cioè, avete presente Lino Banfi? Immaginatelo vestito di bianco in divisa. Immaginatelo vestito di bianco, appunto, che fa il vigile. Sì, non lo immaginate. Insieme anche alla figlia. Insieme alla figlia, Rosanna. Rosanna Banfi. Rosanna Banfi. qualsiasi fiction abbia fatto Lino Banfi c'era anche la figlia. Esatto, sì, all'inizio era povera figlia che purtroppo adesso ha un male, poveretta, non sta molto bene. Salutiamo la figlia. Salutiamo la figlia, se ciao, non ci ascolterà. E anche il padre, se ci ascolta, visto che ci siamo. Vabbè, ciao. Allora, prima che Lino Banfi diventasse Pasquale serio e facesse il nonno della minchia, no? Sai come si chiama in realtà? La minchia. Sì. Chi? Pasquale Zaccaria. Il primo nome di battaglia, lo sai? Dodi. Io non posso fare una trasmissione con due scemi. Qual è il problema? Vabbè, fa niente. Lino di Cacciapuoti. Non mi ricordo bene. Mandiamo la sigla. Lino Rock. Mandiamo la sigla del Vigile Urbano. Se tu passi con il rosso, rosso, rosso, giallo appiccichetto al rosso, giallo e rosso. Allora, facciamo il pezzo serio. Proviamo. È stato Northwest Test. Commentato benissimo da Tommaso che diceva: se questo è il pezzo serio. Vabbè, oggi va così. No, ma l'abbiamo messo per. C'è un motivo, spiegami il motivo di Northwest Test. Allora, i Radiohead hanno fatto un nuovo CD. Sì. Che si chiama The King Kings of Limbs. Of Limbs. Che vuol dire arti, ho scoperto. Vabbè. E nel pezzo di Lotus Flower. Yes. Tom York, il cantante dei Radiohead, si contorce come uno stesso. Sì, nel video fa sì, questo video ballo un po' fa così. Questo ballo psichedelico, con una canzone bella ma molto lenta e psichedelica. Alcuni bricconcelli si sono divertiti a tagliare il pezzo, il video, e a metterci sotto canzoni tipo North to West Test, Destination Calabria, e quindi fa ridere vedere Tom York insieme a Mauro Repetto degli 883. Ecco il perché di questa canzone, di questa scelta. Ma ora torniamo a bomba su Lino. Torniamo a bomba che mi piace. Lino Banfi. Lino Banfi ha fatto il vigile di cui abbiamo sentito la sigla. Tra bellissima. Ho letto da qualche parte, su qualche forum, che il Vigile Urbano ha avuto un certo successo, soprattutto nelle ultime puntate. Perché? Che hanno raggiunto una punta un picco di 8-9 milioni di spettatori. Cioè, signori. Cioè, noi stiamo sparando. Stiamo parlando del 30-35% di Shrek. Anni 89-90. Quest'uomo ci faceva il 35-40%. Marino Banfi è una garanzia. È incredibile. Banfi è... Difatti, visto che aveva fatto così tanto successo con il Ha fatto una serie che era più cagata. Urbano Tommasi. Esatto. Ricordiamo che si chiamava Urbano Tommasi, il vigile urbano. Sarà il padre di Sara. Non vogliamo entrare nelle vicende moderne. Sara, a proposito di Sara Tommasi, ho letto che da quando si è lasciata con Ronaldinho ha una irrefrenabile voglia di sesso. Sara, sono qui, quando vuoi. Io sono Ronaldinho, faccio crescere D'Antonio. Va bene, torniamo. A bomba sulle serie. Dunque, Lino Banfi... Però facciamo partecipare anche quell'uomo in piedi. No, facciamo partecipare Tommaso, poveretto, che ormai sta ascoltando la cosa. Tommy. Vabbè. Tommy è morto. Tommy intanto muore a Marsiglia. Se n'è andato. L'ha preso la mala di Marsiglia. Lasciamolo stare. Allora, un inviato molto speciale. Chi è? Tommaso? No, Lino Banfi. Ah, Lino Banfi. Era il titolo di questa serie TV. Ah, ok. Che andava in onda nei primi anni 90. Subito dopo il Vigile Urbano, grande successo, allora dice: facciamo un'altra serie bella. Sì. Facciamo una mega produzione internazionale. Tipo, dopo IAR facciamo un altro filmone. Sì. Su... Facciamone una bella serie di quelle che bisogna piangere. E invece no. Perché in questa serie, cioè, Lino Banfi interpreta un giornalista del telegiornale. E cito: con poche capacità professionali, ma popolare perché spesso vittima di blob e ospite del processo di Biscardi. Queste sono le serie TV anni 80 italiane. Wow, mamma mia. Sì, c'erano un sacco di ospiti, famo Pippo Baudo. Certo, c'erano tutti, di quel periodo c'erano tutti, partecipavano a questa serie. Ah, annunciamo in diretta la morte di Pippo Baudo. Sì. Così. Successo due minuti fa. Così. Diciamo a tutti gli ascoltatori che Pippo Baudo è dipartito. E mandato. Quale partito? No, di. Di qua. Ah, di. Di partito qua. Demor. L'UDC. Ah, okay. Comunque. Unione defunti cristiani. UDC. Sì, chiaramente. oppure unione di partiti, Cristiano. È bello darvi un input e poi vedere come partite per il nulla. E poi... Come di partite per il nulla. Come di partite per il nulla. Torniamo a Bomba. Serie sui generis dire. Alle soglie del referenziale con Lino Banfi. Ah, è sempre l'inviato molto speciale. Nei panni dell'improvvisato giornalista di telegiornale Damiano Tarantella. Cioè, ma che cazzo di nome? No, fatemi continuare. Una sorta di Forrest Gump delle news che nonostante lo scarso fiuto professionale e uno guarda Dexter e sente Dexter Morgan Damiano Tarantella uguale riesce a diventare popolare dopo essere divenuto vittima di Ted Mosby Damiano Tarantella e proprio... il processo del lunedì lo ha eletto ospite fisso. Hanno partecipato molti personaggi televisivi, tra i quali Aldo Biscardi, Renzo Arbore, Pippo Baudo, Enza Sampo. Enza Sampo, una persona seria. Cioè, Enza Sampo, da dove l'hanno ritirato? Sampai, Sampasti, Sampo. Poi, una novità, tra gli attori compare anche la figlia, Rosanna Ba. Non me l'aspettavo questo. La sceneggiatura originale è firmata a sei mani. Da un cane. Ci sono volute tre persone. E diciamo chi sono. Se ne prendono la Lost responsabilità. Lost avrà uno sceneggiatore. Lost con sceneggiatore due. Non allora, tre. Vabbè, ma un inviato molto speciale scritta da Gianfranco Manfredi, Stefano Sudrie, Stefano Palatresi e Giovanni Romoli. Chi Giovanni cazzo? Rana poi. No. Tutti e tre venivano da San Patrignano. Allora San Patrignano ha trovato questo incarico alla Rai e dice scrivete erano si sono fatti uno spinello insieme mentre c'è un'idea facciamo un bambino Bambi. Il soggetto e le storie oltre che molto esileranti si lasciano guardare si lasciano guardare con molta velocità. Sembra la recensione di un vino, si lascia bere, è un amabile. No, si lasciano guardare con molta velocità, nel senso che lo metti a due per così finisce prima. No, fammi leggere, che togli, assassino, rimetti. Scusa. Dunque, stavamo dicendo, spiritoso, in particolare il personaggio del figlio Leo, mezzo gay. È scritto così. Mezzo. Allora, a proposito, dove hai preso queste citazioni? Chi è la fonte? Lo diciamo. Internet in generale. Mezzo gay. Io ti voglio chiamare mezzo. Sembra un essere mitologico. Poi, mezzo uomo e mezzo gay. La chiosa del pezzo che hanno scritto riguardo dimmi la chiosa, vai. La trama dell'impacciato inviato pugliese che sbarca in Rai per condurre il TG è di per sé. Non ti preoccupare, vai. È di per sé già divertente solo a pensarci. Chiude così il pezzo della descrizione di un inviato molto speciale. Effettivamente ogni tanto io mi domando, ma se fossi un giornalista inutile nel mondo pugliese e rido ma non ti succede mai a te? No. Ma perché non c'è la verve del creatore? È quello. A proposito di mezzi gay, mandiamo Gino all'Alfetta se la trovo. Era su. Mi sembra giusto, ma mi interessava il discorso del centauro, no? Sì, mezzo gay sarebbe un frociauro. Cioè, praticamente tu prendi un uomo tipo, che ne so, tipo Marco, tipo Cosimo, no? Perché chi non conosce Cosimo è una persona meglio. Meglio, sì. Comunque, è una bella persona. Chi è una persona meglio? Cosimo. No, chi non conosce. Comunque prendete un essere tipo alto 1,60 m più o meno. Sì. Fatto? Fatto punto... un po' cicciottello sui fianchi, sui lombi. Poverino, no. Fatto? Sui limb, esatto. Fatelo che parla tanto, fatelo esperto in storia dell'arte e fatelo anche mezzo gay. E Vabbè, Daniele Silvestri, Gino all'Alfetta. Mi oppongo. Go! Muoviti. Eccoci. Sono gay, il mago veramente dei mix. Ha lasciato 5 secondi di silenzio. Chiediamo scusa al nostro pubblico che ci vuole bene. Ma mettiamo Mario, è così. Vabbè, è sempre bello ricordare la sigla del Maresciallo Rocco. Bellissimo. Con l'ansia che sale. Che poi mi ricordo, no, tra parentesi, tornando al Maresciallo Rocco, che Rocco lo chiamano Maresciallo Rocco così freddo. Sembra un film, infatti, no. No, mi sono ricordato che c'era una, tipo quella puntata conclusiva, mi ricordo che la fecero dopo tanti anni, ora mi sono ricordato. Sì, sì, sì. E c'era Gigi Proietti che era veramente invecchiato, perché è lui il maresciallo, ma te li voglio fermo, c'è la cioè proprio ce la fa. Comunque. Ma moriva qualcuno anche in quella lui. Veramente? No, scherzo, non lo so. Che cazzo lo guardavo? Allora, non spoileriamo in ogni caso. Tommaso, io so, perché lo conosco, che ha una cosa impellente da dire, vero? Sul vigile urbano. In effetti è vero, ho cercato di dirvela prima, ma eravate troppo presi da, vai, dilla. Dai vostri discorsi. No, ho scoperto che esiste una fanpage su Facebook del vigile urbano. Però a questo punto io farei un appello. Vai, lancio l'appello. Ai nostri web ascoltatori. Questa povera pagina ha soltanto all'attivo adesso 4 fan. 4? Di cui uno siamo noi. Ah, ok. Perché prima avevi detto 3. Perché nel mentre ci siamo, ci siamo iscritti. Ci siamo iscritti. Quindi iscrivetevi. Ora, in massa. Iscrivetevi tutti in massa alla fanpage di un inviato molto speciale. Ma un inviato molto speciale o il vigile urbano? Sulla nostra pagina di due, Facebook. Uh-huh. Oppure anche direttamente in chat. È un'opera, ecco, di carità, fondamentalmente. Un inviato molto speciale, ora possiamo vedere. Grazie Tommaso per questa chicca. Anche perché così fate guadagnare soldi. No, non guadagni penso, soldi. Non è come Telethon. Se clicchi qui, no. No, non è come date Telethon. Un euro a Lino Banfi. Diamo una mano a Lino Banfi. Comunque, a proposito di Lino Banfi. Cosa vuoi dire? Sì. Mattatore delle serie TV, lui. Infatti, lui è... Perché lui partecipa come protagonista... Non ufficioso, posso dire, ma posso dire cosa ha detto potente. Tommy Forionda. Dillo. Ha detto: ma scusate, ma questa quindi non è la puntata sul trash, la puntata su Lino Banfi. E noi abbiamo detto: no, c'è anche Marco Columbro, Emilio Zotti, Gino Bravieri, il meglio della televisione italiana. Tutta condensata in una puntata. Tutto ciò che la televisione italiana può fornire molto di più. No, Tommy, ti sbagli di grosso. No, se posso spezzare una lancia a favore di Gino Bramieri. Quando era più giovane faceva programmi seri e poi quando è diventato un po' più anziano, che fare nonno felice, insomma, era un po' peggio. Sì. Cioè. Sei invecchiando e impazzendo, Marco. Giusto. È un po' nonno felice, è il nonno felice della radio lui. Ma ora, Marco, sì, no. Ora racconta le barzellette. Dai, dicene Marco, uno. Racconta la barzelletta. La so che la sai. Dai, racconta la barzelletta. Una barzelletta. Vai. Vabbè, possiamo fare quella che facciamo sempre io e te. Vai. Dove vai? Al cinema. Che vedi? Quo Vadis. Che significa? Dove vai? Al cinema. A vedere? Quo Vadis. Che vuol dire? Dove vai? Basta. Ok, va. Non faceva ridere. Grandi momenti di radio, cioè proprio... Altissima radio è questa. Altissima, purissima, levissima radio. Pubblicità. Ops. No, radio ciclettissima. Radio ciclettissima, okay, radio. Quindi, Lino Banfi Mattatore. E intanto è partito, cosa che non dovevano partire. Ferma tutto. Ho fermato. Tanto non avete sentito Banfi, niente. Mattatore, no. È tornato dopo un po' di anni Lino Banfi. Ecco, cosa fa? Cosa fa? Ascoltami, Lino Banfi. Cosa fa? Dillo tu. Voi siete gli ospiti, io faccio non la domanda. Niente. Dai, non sai cosa fa Lino Banfi. L'anno scorso è uscita l'ultima. Ah, sì. Medico ha fatto il nonno libero. Esatto. Ha fatto il nonno libero in un medico in famiglia. Libero nel senso che non è sposato? Libero nel no, libero nel senso che si chiamava Libero. Si chiamava Libero. Libero non mi ricordo il cognome. Libero Ferroviere, no? E quello è il mestiere. Che bello essere così informati. Martini. Libero Martini si chiamava, perché il figlio ospiti del cavolo. Ah, si chiamava Libero Martini? Terza parte. Vabbè, mamma mia, la gente diminuisce sempre di più. Sì, chiaro. Allora. Comunque, battuta famosissima di Nonno Libero era: una parola è troppe e due sono troppe. Chiaramente troppe, dice. Vabbè, era un analfabeta. No, lui non... Ma come? Io cito e basta. Ma come? Sbagliamo merda su quel povero Lino Banfi. Vabbè, uno che fa la dottoressa di sacco coglionello. Non è che sia un artista, nel mio modo di dire. È un filmone, la dottoressa ci sta col colonnello, non me lo offendiamo. Solo perché non l'hai visto tu. L'ho visto, ti è rimasto qui. E ho riso anche. Comunque, la battuta culto di cool e culto del medico in famiglia, una parola è troppa e due sono poche. Ma questa la riprende da un altro film che non so che film è. Davvero la riprende? Sì. È un film degli scoperto anni, adesso. Un film degli anni 80. Ah sì. Dove dice questa cosa? Però lo dice su Google. Però lo dice in maniera strana e sentite come lo dice. Tommy, cercalo tu. Azzeccare una parola è troppa e due sono poche. Io so tutto. I love you. Strangers in the night. Un omaggio a Frank Sinatra. Ah, dimenticavo una cosa. Com'è la parola d'ordine? Quale parola d'ordine? Ogni agente segreto deve avere una parola d'ordine, specialmente nei momenti di disordine. E allora diciamo, pare che il pompelmo faccia male. Ok, pare che il pompelmo faccia male. No, pare che il pompelmo faccia male. Pare che il pompelmo faccia male. Grazie. C'è un mito, Lilo Babbi, veramente io... E lui me l'ha offeso prima. Ha detto che è un ignorante, per piacere. Cioè sì, è un ignorante, no? Però è bravissimo. Vabbè, è un ignorante che fa ridere. Guarda. Comunque, quel pezzo lo dice sempre poi in... Una parola è troppo. In due sono poche. Poi diceva sempre che se ne andava a basta! Beh, sono che troppo commosso. Se ne andava sempre a vivere nel Trullo, in Puglia. Poi l'ha fatto. Poi l'ha fatto. Poi si sposa con... Spoiler! Si sposa con l'altra nonna. Si sposa con la con nonna. Altro spoiler, gli dobbiamo dire tutto. Esatto, la moglie di Fantozzi. Spoilerissima la verità. La moglie di Fantozzi, ricordiamo. Sì, Milena Vukotic. La famosissima. La famosissima Pina, la Pina. Che in realtà non è la prima attrice moglie. Che ha fatto Attenzione, Fantozzi. L'ospite serve a qualcosa. L'ospite sa. Milena Vukotic è la seconda Pina Fantozzi. La prima Pina Fantozzi, original, Liu Bosisio. Cazzo, perché l'hanno mandata via? Non lo so, perché in realtà era molto più brava di Milena Vukotic, secondo me. Vabbè, uno che va a fare il medico in famiglia non penso sia bravo. Sempre qui su Radio Perché ogni volta che faccio l'ospite io nel vostro programma parlo male delle serie TV di cui delle qua. Perché tu hai qualche problema con le serie TV che guardi, non lo so. Giusto. Ma avete chiamato per Happy Days, Happy Gays l'hai chiamato sempre Happy Gays. E l'ho pagato Happy Gays. La sera si parlava di Lino Banfi, mattatore di tutte le serie. E gli hai dato dell'ignorante. Gli hai dato dell'ignorante. Basta, ora no, cioè, me ne vado. Visto che stiamo continuando a parlare di queste cose, sì. C'è anche una fanpage sempre su Facebook di una parola è troppa e due sono poche. Non ci credo. Grande Tom. Non è possibile. Il nostro esperto dal web. Il nostro esperto Facebook. Ho capito. Ma perché non trovi la citazione, una parola è troppa? La sto cercando, però non è così. C'è un programma su Radio DJ che si chiama The Network, dove c'è uno che facciamo pubblicità a Radio DJ, perché tanto noi siamo... Ve lo dico. Il banco c'è uno che si chiama Andrea Prevignano. No, va in onda alle 2, quindi nessuno ascolta a mezzogiorno, quindi nessuno ascolta Radio Cicletta a mezzogiorno. Come no? Ci dovrebbe essere Radio Cicletta. La 8 bit russa a mezzogiorno, scusami. La 8 bit russa, giusto. Cos'è? Ah, giusto. Comunque c'è un certo Andrea Prevignano che è il tuttologo del web. Mi sembri tu, Tommaso, ecco cosa volevo dire. Perché tu sei il nerd, ammettiamo. Comunque ma perché non parliamo di nerd? Ma lo sai che è uscito un articolo questa settimana di Repubblica che diceva che c'è la rivincita dei nerd. I nerd adesso hanno successo, portando delle motivazioni invece. C'era anche un altro articolo dove un ragazzo giapponese o cinese è rimasto 3 giorni davanti al computer a giocare ed è morto. È morto. Ma sì. Che belle cose. Ma se parlassimo delle serie TV, ma guardassimo una canzone. Giusto, il medico in famiglia. Non abbiamo detto. Ma il microfono è di là, non guardare. Ma no, io allora signori, facciamo così. Siccome le serie TV di quelle c'è Mario che sono degli anni 80, c'ho l'ascella di Mario davanti. C'è Mario davanti. State parlando con la mia ascella. Sì, siccome le serie TV sono degli anni 80, mandiamo Brunori Sass con Guardia 82. L'azienda nuova Brunori Sass dalla Calabria. La spiaggia di Guardia Rovente era piena di gente. Si parlava di sport, di Pertini e Berzot. Io ignaro di questo. Eccoci di nuovo, eccoci. Quello era Brunori. con Guardia 82, con un bel pezzo. Ha vinto il premio Ciampi. Premio Ciampi, premio Tenco anche. Ah sì? Sì. No, quindi era un pezzo serio, io non l'ho sentito, peccato. No, vabbè. Ve lo consiglio. Mi sono andato al concerto. Bene, parliamo di cose serie. Vabbè, no, parliamo... dai, basta, ragazzi, cerchiamo di essere seri perché... Un medico in famiglia. Insomma, parliamo di Un medico in famiglia, l'unica serie di quelle che abbiamo scelto che è stata la più vista, a parte le ultime puntate del Vigile Urbano, come abbiamo detto prima. 40% di share. 90 minuti di applausi. Di che cosa parla Un medico in famiglia? Allora, Un medico in famiglia narra le vicende della famiglia Martini che nel corso di ogni puntata deve superare difficoltà e regala momenti divertenti. La serie italiana e la serie spagnola, sto citando Wikipedia ovviamente, hanno in comune la composizione della famiglia, con nomi ovviamente diversi, seppure in buona parte simili. Il medico vedovo con tre figli, suo padre, sua cognata, la Colf, un suo amico e i dipendenti dell'ospedale. Tuttavia le trame sono differenti, soprattutto poi negli sviluppi che le due serie hanno avuto, drammatica l'originale, più spensierata quella italiana. Giulio Scarpati, protagonista della versione italiana, ha inoltre preso parte ad una puntata della serie spagnola. Un medico in famiglia ha ottenuto fin dalla prima stagione un enorme successo pubblico. Finora ne sono state realizzate 6 stagioni, tutte trasmesse su Rai 1. Ogni episodio ha una durata compresa tra i 50 e i 60 minuti. In prima visione vengono solitamente trasmessi 2 episodi alla volta in prima serata. Ufficialmente il titolo di questa fiction è sempre rimasto Un medico in famiglia e non è mai stato aggiunto un numero per contraddistinguerne la stagione. I temi musicali, poi, giusto per dirvi una curiosità, ricorrenti durante gli episodi sono stati composti da Andrea Guerra. E ora, diciamo, ora, quali sono i personaggi principali, principali e importanti della Giulio serie. Giulio Pittalunga, che è interpretato da Ugo Di Ghero. Giusto. Il pupazzo gnappo, per intenderci. Giusto, perché è Augusto Torello, interpretato da Francesco Salvi. Quella macchina qua, devi metterla là! Yeah! Quella macchina là, devi metterla qua! Loro sono proprio i personaggi che fanno cambiare la serie. Giusto? Soprattutto Torello. Sì, sì. Quello che aveva le pompe funebre. Sì, infatti. E si sposa con Cettina. Ma altro lui, personaggio principale. Scusate, ma lui quando gioca a calcio, a cosa gioca? Fa Torello, no? Fa Torello. No, vabbè, basta, pensavo a fare. Un altro personaggio della serie era il primo marito di Cettina. Che era un comico Enrico Brignano. Enrico Brignano. Che poi nasce la serie, poi ha, sì, ha avuto un enorme successo. È della successo. Scuola di... Dovete vedere come gli stanno bene le cuffie adesso a Mario. Cioè Mario praticamente ha le cuffie a cerchietto. Gli stanno mettendo tutti i capelli all'indietro. Sembra un'altra persona. Sì, è della scuola di Gigi Proietti. Non si può guardare. No, non si può guardare. Però gli faccio la foto. Grazie. Continuate. Dunque, quindi abbiamo detto anche questo. Una cosa che ci poteva far collegare. Mentre qui facciamo il book fotografico a Mario. Parla Piero, vai, intanto vi faccio una foto. Non è un cazzo di lato. Ma insomma, oh. La sigla, possiamo dire che la sigla è stata quella dei Los Locos, dei pazzi, esatto. Ai. E poi ne hanno fatta l'altra fino alla quinta stagione, poi alla sesta si sono stancati. Meno male. E ne hanno fatto un'altra. Ora, se tu vuoi, mentre vi fanno le fotografie, potremmo mandare la nuova. Era bellissima la foto. Possiamo mandare la nuova sigla? Assomiglia a Carlo. Assomiglia a Carlo Giuosio. Questa è Un medico in famiglia 2. E intanto noi parliamo ancora con l'ascella di Mario. The Revenge. Ce la fai sentire? Eccolo. No, non è partita. La devo sentire. Inizia come prima, è uguale. Questi chi erano? Quelli di Bad Robot? Chi? Bad Robot è una casa americana di produzione che quando finisce fa Bad Robot. Allora dobbiamo fare ancora più piano, ancora più piano di così, ragazzi. Perché abbiamo avuto la cazziata? Perché abbiamo avuto la cazziata? No, ma è stata una cazziata soft. Meno male. Sì? Sì. Ecco, avete sentito quanto ha parlato. Comunque. Dicevamo del medico in famiglia, giusto? Abbiamo trovato due o tre chicche molto interessanti. La prima è che pare che è una scritta che aleggiava sulla mensa per anni. Pere che in Pomperbo faccia bene. E ora me la ricordo anch'io questa cosa. Io non me la ricordo. Perché tu non frequenti la mensa, secondo me. No, infatti, non ci vado mai. Anche perché non può. Infatti. Giusto, scusa, ignoranza. Mancanza di ignoranza. La seconda chicca ce l'ha dato Tommaso, vero Tommy? Sì, ho trovato il titolo del film da cui è tratta la citazione, quella di cui si diceva prima. Sì. E in pratica il titolo del film è Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia. Bellissimo, grazie. È un film del 73. Secondo applauso alle battute, bellissimo. Ecco. Adesso è lui, da nonno e libero. Da cui è tratto anche Pere che il pompermo faccia mele. Sì, giusto. È quello che dicevamo. Grazie Tommy. Grazie. Dunque, rimandiamo in letargo Tommy e passiamo da nonno libero a nonno felice. Ah, subito così? Subito così, giusto, perché sennò di certo parliamo. Così usciamo dall'imbuto Lino Banfi. Dall'impasse. E parliamo di Gino Bramieri. Così, a bomba. Che ci piace, a bomba. Esatto. Allora, nonno felice, sempre da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Esatto. Nonno felice è una sitcom italiana prodotta dalla Aran, oggi Endemol. Cazzo. Non c'è scritto cazzo su Wikipedia. Che vuol dire? Per RTI non è quella che faceva i film porno la notte, è quella di Berlusconi. RTI, che è Mediaset. No, è una casa di produzione. A partire dal 92, e il regista era Giancarlo Nicotra. Cazzo. Le musiche Augusto Martelli. Tom era un tuo parente? No, però, okay. Era Tommaso, era lui sotto falso nome. Perché dalla chat mi stanno un attimo riprendendo. Ok. Il fatto del film l'aveva anche detto qualche minuto prima che poi lo ridicessi io. Sì. Ila Pingu in chat. Chi sarà mai Ila Pingu? Grazie Ila Pingu. Non lo so, però è riuscito anche lui o lei a, insomma, a trovare questo film. Credo quindi lei. La ringraziamo. Credo lei, Tommy. Comunque. Può dirlo. La trama di Nonno Felice. La famiglia Malinverni, il cui patriarca, cioè Wikipedia è un po' di una cosa. Qui patriarca Malinverni, ripeto. La famiglia Malinverni, il cui patriarca è Felice, sì. Si occupa dell'educazione dei suoi tre nipotini, Federico e le gemelle Eva e Morena. Qui viene il bello. I loro genitori, Franco di professione architetto e Ginevra, sono sempre fuori per lavoro, così tocca quasi sempre Nonno Felice prendersi cura dei nipotini e di tutte le vicissitudini che gli accadono. Chi sono questi signori, Franco e Ginevra? Ginevra è interpretata da Paolo Onofri, che poi penso sia sparita dopo. No, ma lui, diciamo chi è. Ma lui, signore, Franco Malinverni. Signori e signori, è Franco Oppini, cioè, mitico. Una persona bruttissima, una delle persone più brutte che abbiamo visto in vita mia. Che però si trombava, diciamolo apertamente, sinceramente, Alba Parietti dei tempi d'oro. Sì, ci ha fatto anche un figlio che è uguale a lui, purtroppo. È uguale a me, ha indicato me. No, ha detto uguale a lui, ha indicato me. Ma in effetti me. Un po' ti assomiglia. Assomiglia un po' a Franco Oppini. Hai un po' quelle occhiaie tipiche da Franco Oppini. No, Franco Oppini. Cara bella. Comunque, una delle caratteristiche di Felice è quella di esprimere buon umore e allegria. Beh, così si chiama go-go. Felice, giusto? Spesso recitando alcune delle sue spassose barzellette e di prendere in giro suo figlio Franco. Soprattutto quando si rivolge a lui chiamandolo Papi. Oggi chiamare Papi invece. Non si ricorda può. Altre cose. Mi ricorda altre cose ben più. Che mi ricordano Alba Parietti. Felice è solito. È solito spesso andare al bar, luogo nel quale si trattiene insieme al barista Orazio, che è Alberto Tovaglia. Alberto Tovaglia, famosissimo. La bella cassiera è Sonia Gray. Ah, a proposito di Sonia Gray, chicca. Ieri sera cercando su YouTube qualcosa su Nonno Felice, ho scritto sì. Nonno Felice, sigla, altre cose. E mi appare un video su YouTube che era... Tette in HD di Sonia Gray. Questa era la. In HD? Sì. Ah, meno male, perché se non erano in HD non le volevo vedere. Ma... intanto il presidente via chat ci manda cose. Manda cose bellissime. il mitico Belushi, vestito come. John o Jim? E quello morto, Jim. No, John, scusate. Comunque, insieme a Sonia Gray. Allora tu mi fai parlare di Nonno fa? Felice. Un'altra serie. Nonno Felice. Stai dicendo Nonno Felice, no? Non sto dicendo Nonno Felice. Comunque, c'è anche il dottor Nuvoletti, che è Luca Sandri, di cui spesso sbaglia il nome chiamandolo Nuvolari. ma quanto corre il lupo Lari, sì. Cantava qualcun altro. Comunque, hanno fatto una serie TV per far raccontare le barzellette a nonno Felice. Questa è a nonno Felice, diciamo. A nonno Felice. E noi abbiamo qui degli spezzoni, perché hai il briefing di tre ore messi lì. Cioè, non è che l'ho fatto per i culi. Ne abbiamo selezionate due. Qual era la prima, te la ricordi? Cameriera, mi sa. Oh. Allora, questo è l'intro per capire le cose. Spiega la puntata. Appunto. Vai. Io intanto parlo sempre Tommaso, con la fascella. Intanto Piero, sì, come cazzo si chiama? Marco. Si chiama Paccio, lui. Ride. Allora, c'è la famiglia. Deve invitare a casa una signora snob. È giusto, questo volevo dire. E quindi vogliono una cameriera. Una cameriera, come Sergio Cammariera. Sergio. Aiuto. Vogliono sta cosa. Sta cameriera. Dunque, chiamano un servizio di catering per la cameriera e gli viene questa cameriera. E nonno Felice fa il colloquio di lavoro. Colloquio orale. Questo è quello che succede durante il colloquio orale. Ho perso lo sketch. Come? Lo sketch. Ecco. Eppure ce l'avevo qua un attimo fa. Il campanello più lungo della storia del TV. Buongiorno. Buongiorno. Prego, prego, entri. Si accomodi. Vorrei subito chiarire delle cose. Non metto la cristina, non metto i guanti, non metto il granello. Il vestito quello se lo mette. Cioè, lo metto. Meno male. Che grandi battute. Questa era la battuta. Il tenore della serie TV era questo più o meno. Mi ricorda quando stavo male, andavo a scuola, no? E un giorno, una mattina avevo la febbre, e allora non andavo a scuola e mi guardavo nonno Felice, me lo ricordo. E eri felice? No, per niente, perché avevo la febbre. Peggiorava la febbre, nonno Felice. Un altro sketch di nonno Felice, giochiamocelo ora, perché sì, è bellissimo. Per divertirci ancora di più. Sì, lo ce lo diamo dalle palle. E nonno Felice non tavolo, perché il tavolo l'hai chiamata tavolo, l'hai fatto tu, quindi prendi le responsabilità. Di cosa parlavo? Sentiamo. Mi sono dimenticata di dire l'ultima cosa. Che io mangio al tavolo. Perché dovevo mangiare nel lavandino. Ah, ora mi ricordo. Praticamente durante il colloquio con questa cameriera più snob della figlia, della nuora di... La figlia. No, che state stai dicendo? Dell'invitata. Ah, dell'invitata. Meno male che ci siamo guardati 10 minuti inutili di nonno Felice, manco l'hai capita la tra... Insomma, c'era questa signora che fa la cameriera. Ma tu li hai ancora per i culi? No. Ah, ok. La cameriera, che fa parte... che è iscritta al sindacato dei camerieri, delle cameriere. Esiste un sindacato dei camerieri. E sembra che in queste... Il nonno Felice... Sergi. Sergi. Sergi. Il nonno Felice ci sta questo sindacato. Sì. Ma che chiediamo al presidente di non mandarci più mail, per favore, o link strani. Manda link sulla chat il presidente. Inutili, tra le altre cose, esatto. E niente, lei è iscritta al sindacato e quindi sta lì a mettere tutti i paletti. Io non faccio questo, non metto la cresta, come avete sentito dall'inizio, non metto la cretina, non metto questo. E alla fine una delle sue ultime cose dice: io mangio a tavolo. Oh, quindi lei mangia al tavolo per i camerieri, dignità per loro. Però in quel modo viene meno tutta il senso di fare gli snob con la cameriera, quel esatto, che mangia brava, al tavolo. Brava. E quindi c'è lì un po' la battuta di Felice. Brava. È un po' triste. Io direi di mandare un pezzo. Vai. È giunto il momento. Quale pezzo mandiamo? Senti, non lo so. Guarda il mar, guarda il mar. Mantiamo in O'Brien. Eccolo qua. Questo pezzo è perché? Ve lo spieghiamo dopo. La signora guarda il mare, si è comprata la TV e si sa che prima o poi diventerà una di quelle che piangono del film e poi ridono del film o che girano con l'ombrello anche se è bello. Questi erano in Ubraino con La signora guarda il mar. È morta di botto la canzone, che è successo? Una sfumata. Ma comunque sfumata. Moriva di suo di botto, okay. Che abbiamo scelto questo pezzo per un semplice motivo. Grazie Marco per l'acconciatura. Perché La signora guarda il mar è una signora che guarda soltanto la TV e si aliena dalla vita. Quindi è la signora degli anni 80, è una signora, ma anche 2000 fondamentalmente. Sì. Dice, no, prende il... si ammala solo se annunciano il virus in televisione. Insomma, un pezzo serio per dire guardate la serie TV, ma moderatamente. Ma guardatele su internet e non sulla TV. Esatto. Di cosa parliamo ora? Di ragazzi. Ragazzi, sono ragazzi. Sono ragazzi. In generale, abbiamo, visto che abbiamo parlato di nonni, passiamo ai ragazzi. Parliamo ai nipotini. Esatto, ai ragazzi. I ragazzi. Che ne so, ragazzi. Che ne... Cesare, ragazzi. No. Oppure un altro. No, stavo pensando al lancio dopo. Scusate. Ah, un altro ragazzi? Sono... Stavo pensando a cose. Io no, non ho capito. No, perché poi potremmo dire dopo, quando avremo finito di parlare di ragazzi, sì. Potremmo dire: e come si vestono i ragazzi? Da chi vanno? Giusto. Così Tommaso è contento. E fare parlare Tommaso. Esatto. Dopo, però, questo. Perché Tommaso parla troppo, quindi dopo. Dopo. Per adesso, dopo. Zitto, Tommaso. No, scherziamo. Ragazzi... Allora, Cesare, ragazzi. Penso. No. Un altro? I ragazzi della via Gluck. No, non è ragazzi quelli della via Pall. No, nemmeno dello zoo di Berlino? Nemmeno. I ragazzi innamorati. Eramo e passavanti a Sanremo di qualche tempo fa. No. I ragazzi di Alassio. No, non è ragazzi di Alassio. Però Alassio si avvicina. Sì, perché? È perché... Questa sigla è troppo brutta, ragazzi. Metti Los Locos come sottofondo, mi piace. Vai, voi parlate io lo vedo. Dai, allora no, parliamo seriamente. I ragazzi della terza C Alassio, perché fanno Miss Muretto ad Alassio. E quindi i ragazzi del Muretto, Muretto. Se devi spiegare il link, uno gliele mette lì. Vai Piero, parlami dei ragazzi del Muretto. È una serie televisiva andata in onda su Rai 2 negli anni 90. La serie racconta dei problemi quotidiani di un gruppo di liceali appartenenti per la maggior parte alla media borghesia, che si riunivano attorno al Muretto di Piazza Mancini a Roma. E qui per Wikipedia sarebbe finita, ma noi abbiamo trovato che è vero, Wikipedia la fa... grandi... aspetta, perché ora voglio sentire le grandi citazioni di Piero come prima di quella dell'inviato molto speciale. Sì, vai. Prego, Piero. No, qua dice che è girata da registi vari, la prima da Ruggero Diodato. Mica Cotica, non lo so. Per questo fortunato telefilm Made in Italy, che incollò ai teleschermi milioni di adolescenti genitori italiani. Addirittura. Cioè, adolescenti genitori vuol dire sedicenni... No, si è scordata la E. Sedicenni con figli. Nell'epoca delle storie incredibili alla Melrose Place e degli ambienti ovattati e favolistici di Beverly Hills 90-210... Dove le trovi queste cose, Piero? Finalmente storie vere, problemi veri e volti simili a quelli che si incontrano tutti i giorni. Lo scenario è un quartiere come tanti della Roma anni 90. Un muretto è il luogo di incontro per ragazzi studenti liceali, ognuno con la propria storia ed il proprio modo di essere. Sembra seria così la serie. Sì. C'è Deborah, romantica Deborah. Sovrappeso, ossessionata da un padre vecchio stampo, che è proprietario di un negozio di alimentari. È il biondo Johnny. Johnny, romanissimo, che faceva anche un cartone animato. E quasi magia Johnny. Johnny, certo. È ma lui, Johnny però. Con la G, mi sa. Johnny, no, qua c'è scritto con la Johnny. G, che vive col nonno e non si separa mai dai suoi rollerblade. È vero, me lo ricordo. Come in ogni gruppo che si rispetti, non poteva mancare una coppia inossidabile. Quella di Stefania e Sara. Indiana Jones. No, scusate, Stefania e Daniele. Tra l'altro, uno dei ragazzi del Muretto, quando è invecchiato, ha fatto Un posto al sole. Michele, di Un posto al sole. Ah, sì. Questi Stefania e Daniele erano sempre. Giornalista, quindi ci conosciamo con un inviato molto speciale. Certo. Ti collegamenti. Un link continuo qui. Sempre in giro in motocicletta, mentre più problematico. Scusate, problematico è il legame tra il viziato Simone e la bella Sara. Legame che si spezza quando lei resta incinta. No, la cosa bella, spoiler, la cosa più bella di cosa sto facendo? La cosa più bella del telefilm sono i costumi, secondo me. Se c'è lo spoiler sotto non posso dire. I costumi anni 90, raga, erano veramente osceni, quelle camicie larghe fatte male, con gli occhialini tondi. Veramente brutti, andate a vedere. Ora, io erano belle le musiche. Io non lo sapevo, ma la sigla dei ragazzi del Muretto, quella introduttiva, quella che inizia, la sigla, che sigla vuoi fare? Poi c'è la sigla finale di chiusura anche. No, a parte le musiche che sono tutte anni 80, quindi di Stadio, Luca Carboni, che perché è un amante di Luca questa Carboni. Musica dei Carboni, Ardente. Della Bafana. Bafana. No, la sigla iniziale era Night and Day, una canzone che si chiama Night and Day, rifatta niente po' di meno, è che degli U2. E Nightingale di chi era? Non mi ricordo. T'ho fregato. Non mi ricordo. Ce l'ascoltiamo? Ce l'ascoltiamo subito. Ce l'ascoltiamo. Vai. Vai. Oh, yeah. Oh, eccola. No. Suoni gutturali da Radio Cicletta. Trasmettiamo Aurora. Stai soffrendo? No, no, come faceva la canzone, sto imitando. Non l'ho sentita, non l'ho ascoltata. Chiedo venia. Ah, sì, allora, io ce l'avevo all'orecchio sinistro. Ero qui a parlare con Leo. Grazie Leo per tutte le info che ci hai dato su questo pezzo. Night and Day degli U2, rifatta degli U2, un pezzo di Frank Sinatra. Rifatta, esatto. E un pezzo di Frank Sinatra rifatto appunto gli U2 nell'album Achtung Baby. Achtung Baby. Non fare gesti. Attento bambino, attento ragazzo. Baby. A proposito di altri ragazzi, sì. Baby, baby, baby. I ragazzi, baby. No, i ragazzi della terza C. Ma io mi chiedo, no? Ma sono le serie mai precedenti, no? I ragazzi della seconda C e della prima C non l'hanno mai fatto. Vabbè, basta. No, perché prima non erano interessanti. Dalla terza C in poi interessatissimi. Allora, Wikipedia dice che i ragazzi della terza C è una serie televisiva italiana della fine degli anni Ottanta. Ed è ambientata nell'Italia anni 80, giustamente, cioè, alla fine, racconta le vicende di una classe del liceo Leopardi di Roma, nel percorso verso gli esami di maturità. Consta di 3 stagioni, senti là come sono bravi su Wikipedia, per un totale di 33 episodi trasmessi dall'87 all'89 su Italia 1, una delle reti Fininvest oggi Mediaset. Vabbè, la serie era caratterizzata da un umorismo basato su gag e battute a ripetizione, sì, su Lady Gag. Fai la pronuncia giusta. Battute a ripetizione continua, senza tempi morti e pur concedendosi qualche termine colorito. Noi non lo facciamo mai qui in radio. Mario, noi abbiamo Mario per i termini coloriti. Culo. Ecco, vedi. Senza mai scadere nella comicità volgare, poi dice qui tra l'altro. Sei un culo. Grazie. La recitazione degli attori protagonisti molto spontanea e non impostata, nonché cani. Ah, giusto. Gli attori sono dei cani, ok? Nonché la caratterizzazione dei vari personaggi ha fatto sì che la serie riuscisse a dare una rappresentazione, seppur in chiave caricaturale, dei diversi tipi di studenti presenti in una classe delle superiori e delle situazioni che potevano scaturire mettendo insieme personaggi molto differenti per comportamento, estrazione sociale e livello culturale. Io me la ricordo. Vai, mi ricordo che ero giovincello, ero bambino, andavo alla Primina a quei tempi, che cazzo, nell'87. Casa Lulì. Ma quella dopo. Quella dopo. Comunque, andavo e ricordo. Nel frattempo tu parla, vai. Ah, ok. Allora ricordo che andavano a scuola, tornavo a casa e c'erano i ragazzi della terza C. Andava tantissimo, proprio tutti vedevano la cosa. E ricordo tanto, molto bene, Fabrizio Bracconeri, no? Ma chi è Fabrizio Bracconeri? Era quell'attore, quello è un bracconiere, quello che parente spara di Fabrizio Fibra. No. Quello che spara ai cinghiali, ai neri spara, bracconeri. Vabbè, comunque. Il personaggio che vergogna, si chiama questa trasmissione. Il personaggio si chiama Bruno Sacchi. Bruno Sacchi, e mi ricordo che c'era faceva gli il professore, no, di italiano, Arrigo. Antonio Allocca. Bruno Sacchi, no, il figlio di Arrigo Sacchi, si stava dicendo lui. Il professore, ricordo, Antonio Allocca, che indicava questo Sacchi, gli diceva: Sacchi, potete vedere il movimento, Sacchi. Due, nel senso che gli metteva due picchiando il dito indice simile della mano destra contro la narice e sinistra. Bravo, bravo. Questo Bruno, no? Questo Bruno Bracconeri è diventato famoso, poi. Sì, è l'unico, a parte Antonio Allocca, che è un famosissimo attore, ha lavorato anche con Roberto Benigni. Mai visto. Però Antonio, sì, l'hai visto, non te lo ricordi, ma Antonio Allocca l'hai visto. Bruno Sacchi, ovvero Fabrizio Bracconeri, ora è famoso, è anche molto dimagrito rispetto a quei tempi, perché a quei tempi era bello importante, me lo ricordo benissimo. Sì, e ora è dimagrito. sì, ora, sì, ora, sì, rispetto ai tempi di gira in divisa, ora, no? Ora gira in divisa e fa il grande esperto di legge a forum. Cioè, vi immaginate uno che fa i ragazzi della terza C e poi si mette a fare l'esperto di legge con Rita dalla chiesa e quell'altro deficiente che non mi ricordo. Scusate, un momento triste. Prego. Ha preso il posto di Pasquale. Ve lo ricordate Pasquale di Forum? No, io no. Quel vecchio che faceva la guardia giurata a Forum. Ah, sì, sì. Pasquale. Tamarro Romano. Tamarro Romano. Sì, adesso c'è. Gli hanno fatto, a proposito di Pasquale, sì, gli hanno fatto una puntata dedicata. Sì. Solo per come andava in pensione. Ha detto, questa puntata è per te. Sei commosso. C'erano i pasticci. Gli è venuto un colpo apoplettico. È morto l'intero. Qui no. Stiamo passando da un trash all'altro. Comunque... L'altro, quello che sta con, come hai detto, sì, Fabrizio Bracconeri. Bracconeri, l'altro che hai detto, eh? Antonio io, Allocca. Lui? Il professore italiano, sì. No, non il professore italiano, l'altro che sta a forum con lui. Ah, sì, quell'altro, non me lo ricordo. È presente, no? Lui, no? Sì, sì, sì. L'ho servito al tavolo. È un ubriacone di prima categoria. Però... Mi ha offerto sigarette, gli ho detto non fumo. E ha detto, vabbè, ti offro da bere. Ho fatto, il metro non vuole. Mi stava mandando a fanculo. Però poi si è trattenuto. Però grandi link in questa puntata degli spaccia. Perché stiamo parlando di qualcosa, no, facciamo intervenire Tommaso. I ragazzi hanno sempre dei gusti un po' difficili in quanto a moda, giusto? Mm-mm. E quindi come si vestono questi ragazzi? Chiedono consigli a chi chiedono consigli? Tommy, dicelo tu. Chiedono dei consigli alle commesse. No. A proposito di commesse, cosa ci puoi dire? Che è proprio commesse è stato il nome di una serie televisiva andata in onda su Rai 1. Sì. Ora vi dico anche gli anni 1999-2002. Mamma mia, così tanto è passato? Sì, come così tanto è passato. Addirittura due stagioni per un totale di 12 episodi. Cioè, 12 episodi a stagione oppure 6 e 6? No. 12 episodi in totale, 6 e 6. Mamma mia, meno male, ti immagini 24 puntate. Però rispetto alle altre serie a cui siamo di solito abituati, queste hanno puntate da 100 minuti circa. Ah, ho capito, quindi era bella erano lunga. Puntanoni. No, c'erano i puntanoni, però erano puntatori. Sì. Allora, a proposito, quali erano i puntatori? Prego. Sabrina dì. Ferilli. Sì. Olè! È una, vai. Terza Marta ed è madre di un bambino down. Sì, vero. Ah, ok. Bambino poi, giù, traduciamo per chi non sapete. Che bella Nancy Brilli. Andate sul sito della Brilli. Sempre vabbè. Discorso di puntato. Vabbè, basta. Vai. Che interpreta Roberta ed ha una relazione con l'ex Roberta, direttore. Ascolta. Poi cos'ha un tic? Cos'è che hai detto? Che interpreta Fiorenza, donna single che vive con i genitori. Mm-hmm. Anna Valle che interpreta Paola. Cosa c'ha? Bella Anna Valle. Bella figliola. C'ha Anna Valle? No, Anna Valle, scusate, avevo capito male. Valle Verde. Bello, tra un po' noi faremo come Anna Valle. Vai. Che interpreta Romeo, un omosessuale. Ah, Anna Valle interpreta Romeo. No. No. Chi è che interpreta? Franco Castellano. Ah, Franco Romeo. Castellano. Ah, sì, ho capito chi è Franco Castellano. Vai. Che poi in un altro faceva il cattivo. Che interpreta Lucia. Sì. E Caterina Vertova, credo si pronunci. Vertova. Magari è russa. Che interpreta Francesca. Ok. E cosa fa questa? La direttrice della boutique, che è quella che poi causa in pratica tutta la serie, perché la serie in pratica è incentrata su queste commesse che rischiano di perdere il lavoro a causa della nuova direttrice. È vero, giusto. Wow. Una fiction serie. Senti che drammi. Il dramma del drammi lavoro. Del lavoro, veramente. Ah, basta, abbiamo finito il foglio. Ma di che parla sta serie, quindi? Questa qua che vuole buttare tutti quanti fuori? E poi diventa amica. Sì, c'è cioè lei che vuole sostanzialmente un po' ristrutturare tutta la boutique, quindi risistemare le cose, te mi piaci, te non mi piaci, te vuoi fuori, te entri, e... Tutto tramite i drammi di tutte queste donne, sostanzialmente. Ma veramente noi italiani non abbiamo che vedere la sera. Cioè, ma che cavolo facciamo queste serie televisive orrende? Ma mi chiedevo, no, per favore, Tommaso, leggi dal punto dove dice le dipendenti di una boutique di Roma. Vai, leggilo fino al due punti, vai. Le dipendenti di una boutique di Roma rischiano il posto di lavoro a causa dell'arrivo della nuova direttrice, Francesca. Così di ognuna di loro si vengono via via a scoprire grandi e piccoli segreti, speranze e delusioni nascoste, difficoltà economiche e traverse amorose. Senti là, che grande fiction, sembra chissà cosa. Non ce la posso fare, vedere. No, infatti. Ma va bene, detto questo, mandiamo un po' di musica, che ne dite? Comunque, volevo dire soltanto, prego, che Leo, di tutto, sì, commesso, si ricorda solo una scena, quella in cui a Navalle si fa la doccia. C'è Leo, Leo smette. Davvero, cioè, la devo cercare allora su YouTube, non lo sapevo. Comunque, a proposito di puntanoni, puntatori, cose del genere, mandiamo il pezzo dei Marta sui tubi. Giusto, mi sembra il giusto. Ma devi spiegare perché. Perché il pezzo si chiama La Spesa e visto che parliamo di commesse... Di shopping. No, visto shopping, che parliamo di puttanoni. Ah, Marta sui tubi è il titolo di un film porno in realtà, vai. Non che idea del gruppo. Infatti, prego. E vabbè, è andata così. Sì, ormai così oggi. Un'altra sera a casa a masticare noie surgelati. La TV vomita pezza. Bisogna avere più che dalle facce all'abbondanza. Fulmine dentro la schiena. Penso. Puoi dirlo di nuovo, per questi favore. Questi erano i Marta sui tubi con La Spesa, un pezzo dell'ultimo album Sushi and Coca. E su questo pezzo c'è un aneddoto da raccontare. Prego, dottore. Un aneddoto che dovrebbe raccontare Leo, perché è più bravo di me, ma lo racconto io anche perché... Ma Leo è morto. Leo è morto. Mm. Ai bordi delle strade, Leo è morto. Giusto. E c'ero anch'io quella sera, quindi... Quando Leo è morto? No, quando c'è stato l'aneddoto. Concerto dei Marta sui tubi al Cinema Teatro Lux... È in Pisa, piazza dei piazza Santa Caterina. 5, no, dì pure il numero. Ma... Vabbè, è un pubblicità culturale, si può fare. Giusto, giusto. Concerto di Marta sui tubi, e Marta sui tubi, il cantante di Marta sui tubi, comincia a spiegare il pezzo che sta per fare. Un ragazzo dal pubblico comincia a fare: oh, la spesa, la spesa! Ma uno della prima fila? No, è in mezzo. Ah. La spesa, la spesa! No, questa è la spesa, è bellissimo sto pezzo, è la spesa! E il cantante fa: sì, è capito, la spesa, l'ho scritto io, vedrai se è bellissimo. Perché il ragazzo urlava un po' troppo mentre... Questo era quindi l'aneddoto. Questo era l'aneddoto. L'aneddoto. Ora passiamo a una serie TV un po' più importante. Sì, dopo facciamo le commesse. E la capite soltanto dalla sigla, vai. Vai. Cioè io te lo... Ecco. Va ora in onda Casa Radicicletta. Casa Radicicletta. Bellissimo questo. Uguale. Sì, sì, è uguale. Entrava in lutto. Dura 40 secondi, ora la mettere come sottofondo per le nostre avventure amorose. Ma anche no, no, vabbè. Avventura amorosa era. Allora, come avete capito, stiamo parlando di Linda il brigadiere. Esatto. Mi sembra giusto. Casa Vianello. No, posso dire una cosa commovente e bella? Prego. È cioè, bello non vedere... Non l'ho ancora detta, Marco, un attimo. Fallo. Vabbè, quando dice così io già parto. Salutiamo Raimondo e Sandra, sì, che sono ciao lassù. E la cosa bella di questa coppia è che dovevano stare assieme per forza, anche dopo la morte. Questa è la cosa bella. Sì, sì, è vero, verissimo. E dopo questo pezzettino commovente, parliamo di cazzate. Che noia, che barba, che barba, che noia. Citazione culto di questa serie. Ma no, ma hai cominciato già da quella. Sì. Ma no, cominciamo ma si prima. Dice, da... Cominciamo prima, resto, prego, la trama. Prego. Allora, Raimondo Ravianello che interpreta se stesso, Sandra Mondaini che interpreta se stessa, accompagnata da Giorgia Trasselli che fa la tata, ed è stata, secondo Wikipedia, la sitcom più famosa e longeva prodotta dalla televisione italiana, trasmessa sulla rete Mediaset dall'88, pensate, al 2007, ambientata nell'immaginario appartamento dei coniugi Vianello, appunto. 16 stagioni. 363 puntate da 20 minuti l'uno. Quanto fa? Ora te lo dico. Aspect Radio 4 terzi. Era in colore. La serie in colore, cioè non aveva colore. Con l'audio in mono, manco in stereo. Niente, bravo. Diciamo chi è l'ideatore pure. L'ideatore è 141 ore. Non la risposta prima. Il direttore è Fatma Ruffini. Sì, Marco, ma devi dirlo in minuti, però. In minuti, 7000 Marco 121 ore, volevo dire, scusa. Le ore. Ecco. E i minuti? Le ore, i minuti è più facile, 3630 per 2. Ovvero, vabbè, voi intanto andate avanti, 7260. La calcolatrice umana, 7260, l'ho detto. No, sono io con la salita. Quindi okay. La prima stagione della sitcom era stata realizzata presso la studio Clodio della Cerrato, compagnia cinematografica a Roma, città nella quale vivevano i coniugi in quel periodo. Dalla seconda stagione si trasferiscono a Milano e quindi la sitcom viene ambientata appunto a Cologno, cioè girata a Cologno Monzese. Gli sceneggiatori della prima serie sono Giambattista Avellino, Alberto Conserino, sì, lo conosco. Alessandro Continenza, è lo stesso Romano Vianello. Le musiche sono di Augusto Martelli, sempre quello tu, di prima, Tommaso, sei sempre il tuo parente longevizio. Sempre mio. La trama. La serie si incentra sulla vita quotidiana dei coniugi, i loro battibecchi e le loro iniziative, sempre portate avanti in maniera maldestra all'insegna dei equivoci e doppi sensi. So cosa vuoi dire. Vuoi dire che ogni episodio narra una bizzarra iniziativa dei coniugi Vianello, che fallisce sempre miseramente e termina sempre con una tragicomica conseguenza. Una rissa condita di insulti, una bruttissima figura con gli ospiti, scoprirsi truffati o tante altre. Diciamo che proprio per essere proprio di quelli culturali, un momento di cultura che non ci si aspetta, è la classica commedia plautina. La commedia degli equivoci, Raimondo che vuole cercare in qualche modo di mettere le corna alla moglie, no? Allora cominciano gli equivoci, quello parla di una cosa, una persona parla di una cosa, Raimondo capisce un'altra, cerca sempre uno alla fine di fare qualcosa e finisce con la classica agnizione finale, dove si scoprono le vere carte, non esistono più gli equivoci e Raimondo finisce sempre che viene colpito, percosso, finisce sempre malissimo, e la scena finale è famosissima. Andiamo un pezzettino, non c'è bisogno di leggere, sembra un libro stampato. Non c'è bisogno di leggere qui, la scena finale è famosissima. Però prima di mandare la scena finale, prima di mandarla, scusami, mandiamo un pezzettino, facciamo in cui, un esempio. C'è questi battibecchi fondamentalmente. Mi sta picchiando. La Sandra sparisce, fa finta di sparire, cioè, per vedere se il marito è geloso. Quando i carabinieri vanno ad indagare a casa Vianello, succede. Questa è la reazione, diciamo. Buonasera. C'è il signor Vianello? Sì, prego, si accomodino. Chi c'è? È lei il signor Vianello? Sì. Sua moglie dov'è? Mia moglie è scomparsa. Scomparsa, lei non fa la denuncia. Ma non ho fatto la denuncia perché non mi sembrava una cosa molto importante. Grande, veramente sentire la voce di Raimondo Vianello mi si arrizzicano le carni, direbbero i calabresi. È bello, cioè, anche qui è bello vedere come si odiavano per finta. Sì, per finta, davvero, invece dove in realtà era una coppia unitissima. Esatto. Hanno fatto una fortuna sul loro rapporto di coppia di amore e odio, no? Esatto. Odio soprattutto, tra virgolette. Odio e tamo, fortassere quiris. Diceva qualcun altro. Momento cultura, ragazzi, a bestia, no? Cioè, e intanto in playlist c'è Vanna Marchi con D'accordo. Cavolo, c'entra Vanna. Chiedilo a lui, l'ha messa lui, io non c'entro. Era nel delirio ieri del briefing. Vanna Marchi. È quello che Vanna Marchi dura 5 minuti e 24 secondi. Questo è la comunque tornando al discorso, la chiusa di ogni puntata. E la fortuna di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini è anche prima dei Casa Vianello, già ai tempi in cui lavoravano in Rai, facevano questi famosissimi sketch che potete anche vedere in televisione, dove i due litigavano, succedevano, come dicono in Rai, dall'archivio delle teche Rai, esatto. Cioè sempre questa cosa che dicono prima Luce. Di mandarmi. Leggiamo qualche curiosità da Wikipedia. Prego. In alcuni episodi della prima serie, durante la scena finale, Raimondo non ha il giornale sportivo in mano, ma un libro. Sapete che nella scena finale... Nella scena finale Raimondo legge la Gazzetta e Sandra dice quella cosa che fra poco sentirete. Mentre, che ne so, alla serie hanno partecipato attori come attori, diversi doppiatori milanesi, come ad esempio Claudio Moneta e Mario Scarabelli, che non so chi siano, Antonella Elia, Eleonora Brigliadori e una giovanissima Anna Falchi. Questa non la sapevo. Antonella Elia me la ricordo. Nella quinta stagione Anna Falchi, quella famosa per il confetto. Falchi. Basta la parola. Esatto. Insomma, io non direi che faccio così cacare una Falchi. No, per niente. Giusto. Nella quinta stagione ha partecipato in alcune puntate anche il piccolo Gianmarco. Chi è? Il bambino filippino adottato insieme alla sua famiglia da Sandra e Raimondo. Allora, finale di Sandra e Raimondo. Sentiamocelo. Sempre dopo la finta scomparsa. Che barba, eh? Che noia. Ma è possibile che tutte le nostre giornate siano uguali? Monotone, non succede mai niente. Tu almeno sei stato in galera e ti sei distratto un po'. Ma io? Ma guarda che io non ne posso più, eh. Che barba, che noia, che noia, che barba. Buonanotte. Grande, che bello. Grande, grande. Santo, veramente. La scena e poi finiva sempre, no? Con lo stropicciamento del lenzuola, con quel piede che andava, finiva in altissimo. Poi cavolo faceva, perché poi lei era bassa, no? Era bassa, però alla fine metteva la gamba, secondo me si metteva in piedi sotto. In realtà c'era Heather Parisi c'era. Sotto. Ma già è vero che in un programma poi era Heather Parisi, che è un programma Rai famosissimo degli anni 80, tipo Heather Parisi. Era mi piace come dice Heather Parisi, prego. Heather Parisi, oh yeah, faceva la soubrette con la quale ci provava Raimondo, come e sempre. Sandra si ingelosiva e si arrabbiava dicendo che lei non era capace di ballare, ma lei era più brava. Ad esempio, bene, cambiamo genere cioè, televisivo. Andiamo a parlare dei maestri al cinema, alla TV. Al cinema. E a proposito di maestri e professori, mandiamo Roberto Vacchioni. Vacchioni, il vincitore del festival. Yeah. Di questo. Bellissimo, Roberto Vecchioni. Voglio una donna, un professore. Esatto. Un professore. È di Napoli? No, no però. Allora perché dicevo? Un professore, non lo so, mi viene ma in mente. Ma tutto questo perché? Boh. Ah, perché a proposito di professori dobbiamo parlare di caro maestro, sei forte maestro. Che giusto. Non è la stessa cosa, sono, che due sono cose diverse. Uno è figlio dell'altro. No. Sì, no. Più o meno sì, caro maestro era di Marco Columbro, famosissimo. Famosissimo anche per Ugo, abbiamo scoperto. Famosissimo per Ugo e per la storia degli alieni del 2012. Sì, sì, sì, sì. Marco Columbro ha avuto un successo. Sì, è andato in coma, da quando è uscito dal coma ha cominciato a parlare di alieni, di cose incredibili. Davvero, davvero, sì. Chissà se è vero. Nel 2012 lo scopriremo. Cos'era, caro maestro? Chi lo dice, ragazzi? Come? Prego. È una serie. Allora, innanzitutto la sigla. Che poi tra l'altro il legame è perfetto, perché guardate qua. Sandra Mondaini in caro maestro faceva la zia Ottilia. Sì. Allora, innanzitutto la sigla, che era un rap fatto da Marco Columbro, osceno, dove i bambini della classe dicevano A ci piace perché parla con il cuore, B A ci piace perché parla con il cuore, B ci piace perché, dove sta scritto? Perché è buono come il pane, ci piace perché sogna più. Se cambiava mai tonalità. No, ci piace perché è più che speciale. Ci piace. È una cioè, quante puntate ha fatto? Due stagioni, 13 episodi. Ma io me lo ricordo sempre su Canale 5. Si perché lo rimandavano, esatto. In un anno, dal 96 al 97. Però attenzione, qui la Spectrazio è 16 noni. Sì. Abbiamo una chicca che mi arriva da Tommaso, che non ha il coraggio di dirla qui direttamente in radio. Perché non la dice? Non lo dice. Dilla tu, non la dice perché è staccato. Aspetta, io ora la puoi dire. Vai, ora ci sei, dilla. È una chicca su Marco Columbro. Prego. In una puntata dei Simpson, in cui c'è una foto di Homer con una danzatrice orientale che si diffonde in tutta Springfield, Apu rivolge ad Homer i complimenti e Homer dice ignaro che è stato scambiato per Marco Columbro. Cioè? Che vuol dire? Cioè che Homer è stato scambiato per Marco Columbro? Sì. Ah, ma lo dice nell'originale, no? No, vedrai. Doppiaggio. Credo soltanto nella versione italiana. In America dice mi hanno scambiato per Marco Columbro. Ma come in che fu? I was scambied for Marco Columbro. Certo, Scambied mi sembra proprio bello, vero? Scambied. Scambied è americano di strada, è proprio sì, è lo slang americano di Roma. Ma quindi comunque parlavamo di caro maestro. Sì, che parla? Caro maestro parla di un maestro inutile che ha questi problemi. Che sì, poi è uguale. Fammola breve, bravo, bravo. No, è bello che diamo la stessa importanza alle, alle serie TV che viene dopo, è più, più giovane. Questa che hanno che ha, la, poi due, che due stagioni. 96, che ha, 96. È uguale a Sei Forte Maestro, quella con Emilio Solfrizzi. Che è più bella, sì, perché è pugliese. Okay. È sull'altro foglio. Oh, io ho scoperto una cosa, ragazzi. Ai pugliesi non gli devi toccare Emilio Solfrizzi. Mai toccare Emilio Solfrizzi. Ci tengono a bestia. Ma perché Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo, ti dirò, facevano parte di una famosissima coppia comica da noi, sì, che andava, sì, in onda su Telenorba, famosissima. Sì, è diventata poi famosa a livello nazionale. Ecco, ecco, ed erano, ecco, totiettata. Sì. Quindi non ci toccare, sì, sì, totiettata, perché sì, spacchiamo ossa, noi facciamo da... Ed erano, sono, sono grandissimi. Ma io quindi parlerei di un'altra serie TV, visto che stiamo parlando di serie TV fatte da cani. No, ma parliamo di Sei Forte Maestro. Appunto. Hai trovato il... Emilio, che è Emilio Solfrizzi, ma anche il nome gli hanno cambiato. Cioè. Un giovane maestro elementare. Pini non gli hanno cambiato il ritorna nome. A Terni, sua città. A Terni. A Terni, penso sua, tu. Sua città natale. Cosa avete con Terni? Che dice? Dice che perché ce l'abbiamo con Terni? È che sono dei Terni, allora. Perché Emilio, Emilio di Sei Forte Maestro torna a Terni. Emilio pugliese. Per insegnare nella scuola in cui il preside è il suo vecchio amico Giulio. Con l'occasione ritorna ad abitare a casa insieme al padre Vittorio. Era un attorone Vittorio, era quello che ha fatto Amici Miei. Ora non mi ricordo chi dei quattro. Ah, ho capito. Però ha fatto Amici Miei. No, non c'è. E alla compagna di quest'ultimo, Lucina. Emilio lega subito con i suoi nuovi alunni e cerca sempre di aiutarli nei loro piccoli. Gastone Moschin. Gastone Moschin. Ah, esatto. Vedi? E non ho cercato su Google. Nei loro piccoli e grandi problemi, sia a scuola che nel privato. Inoltre Emilio deve gestire il rapporto con la figlia adolescente Sabrina, vita da strega tra altre cose, parte la musica, parte che ha deciso la musica di vivere, fermalo, con lui, fermalo, e con la fidanzata musica, Claudio. Preso. Tanto problemi tecnici, sì, scusate, infatti, no, tutto ok. Quindi Emilio vive con la fidanzata, con la figlia, con i nonni, è un casino allucinante. A dargli una mano c'è Barbara. Barbara Streisand. Collega a scuola e vicina di casa, oltre che storica fidanzata di Giulio, al cui fascino però Emilio non resta indifferente. Puntini sospensivi. Senti là. E chissà chi è che non regge al fascino di Emilio. Veramente un attorone lui. Emilio. Ma a proposito di Marco Columbre, giusto? Stavo parlando di Emilio Solfrizzi. Siccome noi abbiamo il nostro inviato dal web, che perché voi dovete sapere che il web è a Marsiglia, non qui. E trasmettiamo su web. E lui ci ha mandato uno sketch via YouTube, sì, che possiamo adesso trasmettere in diretta. Noi non l'abbiamo mai visto. No. E speriamo che sia quello giusto. Ascoltate. Quello giusto, tranquilli. Ascoltate il nulla. Una ciambella e un gratta il vice, per favore. Tu, aspetta, non è nuovo. Ho visto forse tu in TV. Piacente, amico, mi hai confuso con Marco Columbro. No, perché? Perché? Cosa c'entra? Non lo so, però è bello sentire queste cose direttamente dalla facciona di Gigi Paglia, no? Di Homer Simpson. Prima ho letto, c'è Leonardo che istica Barbara Streisand con Gigi Paglia. Prima di parlare di attori cani, sì, facciamo un piccolissimo accenno ad Amico Mio. Sì, giusto per mandare il pezzo che mandiamo dopo. Sì. Cioè la sigla di Amico Mio. No, Chicco e Spillo di... Allora facciamo, accenniamola noi la sigla. Era quella, non me la Piovani. Io non me la ricordo. Facciamola ascoltare un pezzettino. Dov'è? Io non la trovo. E qua ci abbiamo una cosa lunghissima. Bellissimo leggere, caro maestro, soundtrack. Cioè, vai giù. Ecco, Nicola Piovani, eccolo là. Quello lì. Lo facciamo sentire? Un po', almeno un po'. Vai con l'audio, vai con la sigla. Attacca. Attacca Bastiano. Me la ricordate? Bella. Se cantassero. Aspetta, cosa dovrebbero fare? Parla di prostitute. Infatti. Sulla città le prostitute volano. Chi? Cosa? Ah, pensavo il magnaccio. Sta imbalzerato. Non dove parti. Ma a me più che Nicola Piovani mi ricorda Casadei. Ma che gente. È un malserato un po'. Pensavo che volessi mettere la mazurka come la no. Ora che l'avete messa me la ricordo. Bella, bella. Come Leo dice che viene dopo un po', viene noi, la fermiamo. Esatto. La mettiamo in sottofondo. About, ho premuto about così sul computer, me lo riporta. Vai, sono tranquilli. Io ho sempre paura. Sì, infatti. Dunque, quindi questa qui era di Amico Mio. Non ci abbiamo niente di scritto su Amico Mio, ragazzi. Sì, c'è sicuramente qualcosa perché l'ho visto. Sì, l'abbiamo cercato ieri e c'era. Ti giuro. Sì, c'è una pagina scritta su Amico Mio. Cioè, lo dice addirittura Tommaso. Allora, ce l'hai tu? Sì. Vai, prego. Vai, Tommy. Amico Mio è una serie televisiva ambientata in un ospedale pediatrico e con protagonista Massimo D'Apporto nel ruolo di Paolo Magri. Perché non racconti l'aneddoto su Massimo D'Apporto? No, no, vabbè, prego. Vai, Tommy. Io non ho un aneddoto su Massimo D'Apporto. Cosa? Io non ho un aneddoto. No, io dovevo raccontarlo io, vabbè, ma non importa, non è molto bello come aneddoto. Vai. La regia è di Paolo Poeti. Ah. Altri interpreti sono Maria Amelia Monti e nella seconda stagione Desire Nosbush. Non sbucciare che cosa? Nosbush è il cognome di questa Desire. Vabbè. La serie ha avuto due stagioni, la prima nel 93-94 sulla Rai e la seconda nel 98 su Mediaset. Tra i bambini protagonisti di un episodio compare Cristina Capotondi, divenuta in seguito una nota attrice. Ah sì, Cristina Capotondi. E lo sappiamo quasi tutti. Sì, sì. La serie Cristiana. Poteva fare parte del gruppo di commesse. Scusate, Cristina o Cristiana? Cristiana. Poteva fare parte del gruppo di commesse, no? Prima abbiamo detto noi i puttanoni. Insomma, vabbè, abbiamo capito. Vabbè. La serie è imperniata sulle vicende del dottor Magri e dei suoi colleghi del reparto di pediatria dell'ospedale San Carlo di Nancy di Roma. Prego per noi. Esatto. Sempre convinti che non ci si debba occupare solo della salute dei suoi piccoli pazienti, ma anche delle situazioni familiari e sociali che spesso sono l'origine dei malesseri. Eccetera, eccetera, senza... Senti che grande serie. Diventare troppo... Struggente la struggente di fatti. Ha già detto di Spillo? L'ha detto no, di Spillo. Parla di Spillo. Parla di Spillo. Spillo è un bimbo orfano che vive all'interno dell'ospedale e che non vuole essere adottato. E chi lo interpreta? Chi lo interpreta? Non lo so. Ma come? Chi lo interpreta? Non me lo ricordo. Il bimbo, insomma, lui. Ora non sarà più bimbo. Sì, ora grande. Che cosa fa ultimamente? Che bello, oggi siamo informatissimi. Ultimamente ha fatto qualche altra film, perché poi dopo sì, l'hanno riutilizzato in varie... È uno famoso. Telegenica proprio. A proposito di Spillo, vai. Sì. Cosa mandiamo? Chiaramente Chicco e Spillo di Samuele Bersani. Sì, però io, tornando a commesse, eccolo. Faccio come Anna Valle e mi levo dal... Cioè, me ne vado. Aspetta un attimo, detto il nome. Come si chiama? Adriano Pantaleo. Grazie. Bravo, bravo, Leo, giusto, grazie Adriano Pantaleo. Bravo, bravo, parli come un Google aperto. Dunque, tu volevi stavo salutare. Dicendo che faccio come Anna Valle, giusto per tornare con me. Se come sei volgare. E mi levo dal... no, scurrile campagnolo. No, non ho detto nulla, ho detto che faccio come Anna Valle. Vabbè, buona serata a tutti. Vi ricordo che il mercoledì mattina io e Mario facciamo i pazzi sul serio alle 8 del mattino con i politipazzi. I politipazzi, no, il nuovo nome del programma. Ringraziamo la prima parte pazza di politicazzi che sono stati con noi. Come ospiti agli spacciaserie. La prossima volta che sarò ospite agli spacciaserie parlerò di Lost, l'ho detto e lo farò. L'ha detto, e io ho anche il podcast registrato, non sfugge. Giusto. Ok, lo minacceremo con questa registrazione. Ciao, buona serata a tutti. E adesso mandiamo di nuovo, lo diciamo, Samuele Bersani con Chicco e Spillo. Chicco e Spillo di Samuele Bersani. A tutta manetta, esatto. Allora, abbiamo poco tempo e ci mancano ancora tantissime. Cioè, abbiamo fatto un briefing sigle, esatto. Cioè, sigle, serie di cui parlare. Che comunque il lavoro è stato fatto, qualcosa possiamo dirla brevemente, ma un pochino pochino, ma tipo mandiamo le sigle di quella serie e gli diciamo qualcosa su. Esatto, tipo, io cominciamo dico... con La pazza famiglia, di cui nemmeno io mi ricordo qualcosa. Allora, La pazza famiglia era una serie, ecco, parte la musica, e era di Enrico Montesano, se non vado errato. E dirò, era formata da due stagioni, leggo. La prima trasmessa nel 95 e la seconda nell'autunno 96. Protagonista è appunto Enrico Montesano, che interpreta un architetto 45enne, Leonardo Capasso, la cui vita da un giorno all'altro appare completamente stravolta. E ha anche vinto un Telegatto come miglior telefilm italiano. Pensate cosa. La Awards. Incredibile. Lui cose e che lei. Andavano... Lui e lei, di cui veramente non me ne ricordo. Lui e lei c'erano Enrico Mutti, credo. Sì, Enrico Mutti. È quello che faceva la pubblicità della Barilla. Scusate se l'ho detto. È quello belloccio con i capelli un po' così, il visino. E poi invece c'era Vittoria Belvedere, anche lei discreta figliuola. Questa è la sigla, intanto? Sì. Tra l'altro, lei era famosa anche per aver fatto Le ragazze di Piazza di Spagna, insieme a Romina Mondello e non mi ricordo chi altro. Di cui abbiamo la sigla, se vai su, mi sembra. Non mi ricordo più. Vai su. Allora, scendi un po' piano piano. Corrado Lo Iacono, quello lì. Eccolo lì. Ma non è la sigla, allora. Era qua c'è un mistero. No, c'è un errore. Sì? Sì, perché allora, col mio amico. Se io il mio amico mi corrigerete. Muletto. Quando gli ho chiesto Piazza di Spagna, mi ha messo questo pezzo qui. Ma non è la sigla della ragazza di Piazza di Spagna. Questo è un pezzo. Io picchio il tuo muro. Del Piazza di Spagna. Invece bellina è la sigla di Papà prende moglie, Coccole. Senti qua. Registrata malissimo, scusatemi, scusateci per la qualità. Con Marco Columbro, no? Anche questa. Quante ne ha fatte Marco Columbro? Tantissime. È incredibile. Ora, c'è Leo che mi chiede, ma Italia al Restore non ne parlate? E invece no, è lì che ti preghiamo, noi ne parliamo. Non abbiamo trovato niente su Italia al Restore. Cioè, a parte qualche, un po' di storia di Italia al Restore. Ma niente vuol dire veramente. Possiamo dire che niente. Che c'era Gigi Proietti. Basta un po' per fare. Bello il pezzo ora, Coccole. Coccole. Ora parliamo di Italian Restaurant, ragazzi. Italian Restaurant, una serie televisiva trasmessa su Rai 1 nel 94 e poi replicata anche negli anni 2000 con Gigi Proietti e Nancy Brilli, ambientata a New York, in cui Giulio Broccoli, Gigi Proietti, è emigrato da diversi anni negli Stati Uniti in cerca di fortuna, sul punto di tornare finalmente in Italia, prima di partire decide di salutare il suo vecchio amico mancuso, Luigi Montini, che gestisce l'Italia Restaurant, un ristorante italiano a New York, ma quest'ultimo lo truffa, cedendogli di nascosto il 50% del ristorante e fregandogli tutti i risparmi di una vita e il biglietto aereo per Roma. Rimasto quindi bloccato a New York, Giulio Broccoli si trova costretto a gestire il ristorante insieme a Connie, Nancy Brilli, la figlia di Mancuso, anche lei truffata dal padre, e ora coproprietaria del ristorante. Tra varie peripezie, Giulio riesce a risollevare le sorti del locale e a conquistare Connie e la figlia Angie, Cristiana Capotondi, e qui ritorna. Bene. Ma quando tra i due sta per succedere qualcosa, Connie è costretta a tornare con Angie a Los Angeles, al capezzale dell'ex. Al capezzolo? Al capezzale dell'ex marito, vittima di un incidente. Come se non bastasse, poi qua ci scadiamo nello spoiler, però io continuo. Vai. A Giulio scade il permesso di soggiorno e quindi lo obbligano a tornare in Italia. A sorpresa il giorno della cena di Natale. E quindi ricompare Mancuso con tutti i soldi. Per restare negli States, Giulio deve sposare una cittadina americana e proprio mentre sta per sposare la cameriera del ristorante che aspetta un figlio da un uomo che l'ha abbandonata, Connie ricompare e sposa lei, Giulio. L'abbiamo detto. Wow, che serie TV. Io parlerei di quella lì. Quale? Dei Qual cani. Turbo. Ah, perché... Turbo, come ti dici tu? Allora, si può fare una serie TV su un cane? Sì, hanno fatto Rex. Lessi. Ridillo, Tommy. Lessi. Esatto, ora ti sei sentito. Però non è italiana, quindi non ci frega. Ma in Italia, invece di Rex, invece di Lessi, hanno fatto Turbo. Avete presente il cane dell'Infostrada, il primo cane dell'Infostrada, Turbo, appunto? Come ha avuto successo come spot pubblicitario? L'hanno preso e hanno fatto su una serie TV dove questo cane poliziotto, Turbo, appunto, assieme a Roberto Farnese, Anna Valle, Patrizio Pelizzi, fino ad Anna Valle, vedo poi il Corrado resto Calda, Giovanni Rei, Isabella Russinova, Emanuele Barese, Ursula Anderson, Busculone, esatto. E facevano hanno fatto queste due stagioni con 8 episodi in tutto. E, dai, sì, 90 minuti. Da 90 minuti e mezzo di... E appunto la serie è nata come risposta italiana a Rex. Faceva cacare la serie. Io, diciamo, non l'ho mai vista. Mi rifiutavo, guardavo Rex io per questo. Wikipedia riempie le pagine con aspetti tecnici e tutto il cast che è enorme per 8 puntate. Quindi io direi di mandare tra un l'altro, pezzo. Ora una curiosità, dimmi. Perché le stagioni di solito sono consecutive, no? Sì, invece, è vero. Invece questa fanno 2 puntate il 1 dicembre e il 2 dicembre del 99, dopodiché il 25 ottobre del 2000, cioè, e il 1 novembre del 2000 mandano gli altri 2 episodi della stessa stagione, incredibile, grande successo ha avuto. Quindi io su questi cani chiuderei la puntata. La puntata, anche perché nessuno vuole fare il quiz. Ma non lo so cos'è però, sto quiz. Dimmi, Tommy. Piero. Eh? Dopo il brano che adesso Mario vuole farci ascoltare. Sì. Possiamo introdurre una nuova novità. Ma qual è? Dopo il pezzo o prima del dopo pezzo? Dopo il brano. La dici dopo? La dico dopo. Ok. Allora intanto ascoltiamoci gli ex Otago, un gruppo genovese molto carino. Otago. Che vi consiglio vivamente. Questa canzone qui è dedicata al loro cane, Sasha. Che invece ve lo consiglio mortamente, perché mi sa che è andato. No. Cosa? Il cane, mortamente. Se quello è... Scusami. Perdonate Piero. Song for Sasha, ex Otago. Otago, Song for Sasha, la canzone per il cane Sasha. Ex Otago, che devo ringraziare per averli conosciuti, un nostro collega conduttore, Breakfast Jumpers, il mitico sottobosco, giusto? Sì, sì. Lui che sul suo blog, Breakfast Jumpers, appunto, vi consente di ascoltare tutta la discografia degli Ex Otago, 2 CD molto belli, ve li consiglio. Sta per uscire il terzo, vi consiglio vivamente Costa Rica. Bene, pubblicità culturale musicale fatta. Costa Rica? Costa Rica. E da dove lo troviamo Costa Rica? In Costa Rica è disponibile su... intanto arriva gente qui. Intanto sì, salutiamo Christine Pakbal. Ciao Christine Pakbal. Ciao Christine Pakbal. Salve. Ciao. Come stai? Non ho capito niente. Ma sta ripetendo. Sta parlando da solo. Sta succedendo. Finisco di dire quella cosa sugli Ex Otago. Sul sito, sul MySpace degli Ex Otago, trovate la possibilità di scaricare gratis. Ciao! La Costa Rica, il nuovo singolo di Ex Otago. Mettete le cuffie, per favore. Sì, e se no si torna, vi torna indietro l'audio ed è brutto da sentire in radio. Christine Pakbal? Delirio. Scusateci per gli inconvenienti. Chiediamo a Christine Pakbal, per favore, di abbassare il volume della radio o di mettere le cuffie, per favore. Perché sennò diventa problematica la cosa. E comunque mi sa che sono qui per il quiz, eh? Ma sì. Così si sente però uguale. Così dovete... Christine Pakbal? Va bene, noi intanto continuiamo a parlare. Sì, ma... Tanto non sono collegati con la radio, quindi non c'è problema. No, vabbè. Ok, ce l'hanno fatta, perfetto, ora li colleghiamo. Scusateci per i problemi tecnici. Oh, Christine Pakbal, ci sei? Sì, ci siamo. Oh, benvenuta. Come state? C'è un po' di ritardo, credo. Scusate? Quanti siete? Chi siete? Cosa portate? Christine Pakbal? Un fiorino. Niente. Sì, ci siamo? Okay, vai. Perfetto. Sì, sì. Come state e quanti siete? Siamo in due. Ok. Siete pronti per la domanda? Siamo in due. Due. Abbiamo tre domande per voi. Io e Deborah. Va bene, ciao. Tutto bene? Non fare altre domande, vabbè, perché sennò poi vabbè, uno intrattiene, fa una conversazione allora, amichevole. Sempre due. Sempre due, non so cambiare, sì, okay, dall'inizio, giusto. Domande, siete pronte per le domande? No. Come no? Cioè, ci sentite? Vabbè, ora noi vi faremo tre domande. Per ogni domanda vi daremo quattro alternative, opzioni. Quattro opzioni, e voi dovete dirci tra queste quattro qual è quella secondo voi giusta. Calma, fatemi dire la domanda. Calma, ora la leggerà Mario. Sì, sì, Mario. Sì. Allora, domanda numero uno. C'è un'altra ragazza. Va bene. Sono aumentata, hanno figliato. Buonasera. Ciao. Ciao, Isa. Calma, fatemi dire la domanda. La radio. Calma, la radio, via la radio. Spegnete la radio. Aspetta, ma c'è un'altra ragazza. Oddio, stanno parlando con Tommaso. Nel frattempo, io vi manderei un altro pezzo. Vi manderei la sintesi con un pezzo di tanti anni fa che diceva: ho mangiato la mia ragazza. Che è andato a Sanremo anche. È un bel pezzo, ve lo consiglio. Avevo delle sonorità tipo Orme. Orme. Tanto su Skype succede qualcos'altro. Ok, abbiamo buttato via la radio. Perfetto, bravissimo. Oh, sei pronto? Mi senti? È come a Radio Maria. Perfetto, uguale, ok. Domanda numero uno. Quale attrice americana ha ironicamente superato... Quale attrice americana ha ironicamente superato il problema di essere diventata obesa? Fermati. Aspetta. Interpretando la serie TV Fat Actress, cioè attrici grasse, nella quale vengono raccontati i suoi tentativi di perdere peso e riacquistare il successo del passato. Le alternative sono quattro. Opzioni, quattro. Christy Alley, Roseanne Barr, Drew Barrymore, Angie Dickinson. Famosa soprattutto per la... Quanto tempo abbiamo? È poco. Allora facciamo così. Ridici le alternative. Sì, aspetta. Christy Alley. Christy Alley. Christy, no Christy. Christy Alley. Boh, può darsi. Roseanne Barr. Ma. No, Alley. Drew Barrymore. Ho detto Alley. Loro sono convinti. Alley? Giusto. Vediamo. È giusto? Sì. Ah, la okay. Bellissima Christy Alley, famosa per la sitcom Cin Cin. Senti chi parla. Sì. Dopo il divorzio dal suo secondo marito e il declino della sua carriera, si rifugiò nel cibo, arrivando a pesare 100 kg. Ammazza. Fat Actress, a metà strada tra la sitcom e il reality, racconta le imprese dell'attrice che tenta di tornare al suo peso forma. Ok. Facciamo... Brave, complimenti. Bravissime. Passiamo alla seconda domanda. Domanda prego. Numero due. Sempre io? Leggi. Io faccio l'alternativa. Eddie Falco è dal 2009 la protagonista di una serie TV, Nurse Jackie, che negli Stati Uniti ha immediatamente raggiunto popolarità e successo. Prima di questa serie, Eddie Falco è stato uno delle interpreti di un altro telefilm di grande successo. Quale? Allora. Sì, ma tu così non hai... Attenzione, le opzioni sono quattro. West Wing, I Soprano, no. Ellie McBeal e AR. La chiamata. Quale? Non abbiamo capito. No, rifai la domanda perché noi non avevamo sentito. Era allora, cascata la linea. La ripetiamo. Allora. Eddie Falco. Eddie Falco è dal 2009 la protagonista di una serie TV che si chiama Nurse Jackie. Prima di questa serie ha fatto un'altra molto importante. Quale? Qual è? West Wing, I Soprano, Ellie McBeal o IAR? Pensate alla mafia. Pensate alla mafia. Ripeti l'alternativa, in questo pensionato c'è sempre un alternativo. West Wing, Soprano, Ellie McBeal o IAR? Soprano. Oh, brava. Bravissimo. Allora... Ma io ho una domanda. Cosa? È giusta la risposta, non ti preoccupare. La domanda è giusta, che cosa vinciamo? Il premio qual è? Il premio è... Dillo tu, Tommaso. Tommaso? Abbiamo perso Tommaso. Non c'è il premio, cioè... C'è il premio, arriverà, mi arriverà. Scusatemi. Vai, Tommy. Dicevo, il premio è la tazza virtuale, non più virtuale, di Radio Ciclette e degli Spacciaserie. Si gasa ogni volta che lo dici. Sì, ma noi siamo tre. Tre tazze. Avrete tre tazze. Tre mug. Dunque, la terza domanda, perché se non rispondete bene alla terza non avete vinto niente. Va bene, su, via, vai. L'attore... L'attore che interpreta Emanuele nella fiction italiana Tutti pazzi per amore è figlio d'arte. Ah, io lo so. Ah, sì, io lo so. Di... Vai, coso quello bellino, vai. Ferma. Chi è il genitore? Vai. Michele Placido. Placido. Cristian De Sica, Massimo Ghini o Tognazzi? La prima qual è? Michele Placido. Michele Placido. E infatti è lo pseudonimo di Marco. Sì, è il figlio di Michele Placido. Brave, avete vinto. Avete vinto. Ora Tommy vi manderà la tazza. Tommy? Sì, sì, ora la mando. Vai. Tre tazze devi mandare, Tommy, mi raccomando. Noi intanto ringraziamo le nostre ascoltatrici. Io vi ringrazio per l'ospitalità. Aspetta, ringraziamo prima, allora salutiamo. Grazie a Genie, abbiamo capito, Deborah e Isabella. Isa, siete voi? Sì, bravi! Abbiamo capito tutto. Per venire a fare, prendetevi conto. Io ho acceso Skype, io ho smesso di studiare. Vabbè, ringraziamo ognuna di voi per questo grosso sacrificio. È stato bellissimo avervi qui e riceverete presto la tazza. Cioè, ma arriva alla destinazione, arriva a casa. Sì, sì, lo vedrete, lo vedrete. E ora scendo in Calabria, la fai arrivare. Non vi preoccupate, ora dobbiamo tagliare perché il tempo sta per scadere e vi salutiamo. Buttate ciao, giù. Ciao. Ciao, ciao. Io ringrazio voi per l'ospitalità. Ok. Grazie per avermi invitato, per avermi ospitato. E ci vediamo presto. Sì, sì, faremo un altro episodio, un'altra puntata su qualcos'altro, tranquillo. Sì, un momento. Tommy, novità. Ecco, la novità. Vai. Piero, ci sei? Io ci sono. Ok, la novità che inseriamo da questa puntata... Mm-hmm. È che estendiamo il quiz non solo ai nostri ascoltatori ma anche ai nostri ospiti in quanto dobbiamo effettivamente vedere e capire se sono veramente esperti di ciò che ci vengono a parlare durante la nostra puntata. Quindi sei fregato. Mi sembra giusto, vai. Per cui abbiamo, Mario, tre domande anche per te. Sono pronto. Chiaramente sul trash italiano e tutto ciò che da lì ne deriva. Allora, io non posso aiutarti perché io non le so. Le ha cercate Tommaso? Va benissimo, vai. Allora, Mario, la domanda numero uno è questa. Una delle serie, ti do anche un aiuto, di cui abbiamo parlato stasera, di una di queste serie, è stata fatta anche una trasposizione a cartoni animati. Di una di quelle di stasera? Sì. Vigile Urbano. No. Allora, dai, ti do quattro opzioni. Vai. Partiamo con il Vigile Urbano. Commesse. I ragazzi della terza C. E un medico in famiglia. Un medico in famiglia. Ah, sì. Un medico in famiglia. Io dico quella. Risposta esatta. Davvero? Ma dove l'hanno fatto? Me la ricordavo. Mandata in onda su Rai 1. Sì, mi ricordavo che c'era sta cosa, è vero. E in pratica soltanto poi qualche puntata è stata fatta, tipo la trasposizione forse solo della prima serie. Però è stato fatto. Vedi? Ok, vai. Domanda numero 2. Sì. Questa è un attimino più tecnica. E come si chiama la chiesa di cui è parroco Don Matteo? Ahia. Volendo puoi dare anche la città, questo è già più facile, però. La città non è Foligno? No, io lo so. Posso dirlo io. Vai. Gubbio. Gubbio, giusto. È giusto? Sì, è la chiesa. No, se mi dai le opzioni, prova a indovinare. Allora, diciamo, opzione A, la chiesa di San Pietro. Allora, ripeti, scusa? San Pietro. San Pietro. Mm. San Ranieri. Mm. San Giovanni. Mm-hmm. E San Marco. San Marco? No. San Giovanni. San Giovanni. San Giovanni. Non lo sapevo. Vabbè, proviamo con la terza. Vai. Per la gloria. Onore e gloria. Mm. Una serie televisiva sempre del trash italiano, Ti Aiuto, è degli ultimi anni. Sì. Ha avuto come partecipazione di personaggi famosi anche Francesco Totti, Cristian Panucci, Daniele De Rossi e Simone Perotta. Tra l'altro, tutti in una romanista puntata addirittura Maria De Filippi, che interpretava se stessa. Sì. E anche Raul Bova e Alessandro Gassman. E... addirittura. Quale serie è stata? Ah, io la so. Mi viene in mente proprio... Cesaroni. Anch'io direi Cesaroni. Visto la quantità di romanisti che c'è in questa serie. Però non sono sicuro. È Cesaroni? Sì, sì, sì. È i Cesaroni. Sì. Ho vinto qualche cosa? Non hai vinto niente. Hai vinto un invito per una prossima puntata. Mi ricevi invito ormai. Non hai vinto la taccia perché dovevi rispondere a tutte e tre. Sì, è giusto. Onore e gloria. Mm-hmm. Nei secoli e dei secoli. Un'altra puntata. Ok, va bene. D'accordo. Ora, volendo salutare tutti gli ascoltatori, sì, con che canzone li vuoi salutare? Una canzone che sia indice del trash, non lo so. Vuoi una canzone trash? Perché io volevo una canzone bella. Ah, allora, ma io secondo me facciamo tutte e due. Facciamo prima quella trash e poi a seguire subito dopo una bella. Le annunciamo tutte e due. Allora, e ma andiamo, visto che le abbiamo annunciate, la sintesi con Ha mangiato la mia ragazza. Che è quella del trash o quella bella? Che è bellina. Allora io manderei Dio della Love con Ragazza MySpace giusto per, sintesi, per trash. Ok, allora. Va bene. Partiamo, lì. Guarda, aspetta. Sì, ma prima volevi la sintesi, se li trovo. Che qui ho il... mandi prima quella bella e poi quella trash. Sì, prima sì, quella sì, trash. Poi... No, quella bella prima. Anche perché è un po' trash anche questa. Buonanotte allora. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao Tommy. Ciao Tommaso, ciao, grazie. Ciao. Salutaci Marsiglia.